era senza ruota, infatti l'ho visto, l'ho puesto la mano in capo, l'ho visto, ne è parato, ne si dà una ruota, l'ho visto che voglio rimanere in capo il tipo. Ma non ci l'abbiamo neanche portato, mi hanno portato una macchina di un amico, un appunto l'ha presa in pieno della volta di un camion, proprio in pieno nel paravoletta, è entrata e è ribaltata, lui si è coricato e si è salvato, ma tu vedi quando si è fatta la macchina? Io me lo posso immaginare. Allora il cartellista dice, meno male non stava camminando molto, perché era dall'altra parte della strada il camion, cioè lui stava camminando e dice che sarà stato sui 40-50 e il camion stava incrociando dall'altra parte. In esci dalla ruta, la biliardo in piedi, ci ha visto questa cosa rotolando, per me non l'incontro, non poteva fare niente perché c'erano le macchine a fianco, non poteva schivare, a destra c'era il precipizio, dice, non potevo fare nulla, la biliardo in piedi. Ma come mai, cazzo, non restano le ruote a tutti i cani? Chi è? Adesso stavo innescando. Stavo innescando un attimino, eh. Ora sta facendo Natale. Ho detto, chissà come mai che gli restano le ruote con rispetto a questi camion. Perché vanno strette bene con la mazzetta, vanno bloccate i bulloni, poi vuole fatto in modo che fuggino bene bene, il problema lo sai cos'è? Che molte volte sono convinti che sia bella appoggiata la ruota, però non è perfettamente in piano, per cui tu le esigi due o tre che sembrano stretti, dall'altra parte appoggi e non è completamente appoggiata, alcuni movimenti, le vibrazioni alla fine sono e ti lasci camminare. Infatti un mazzetto. Poi un pericolo con la strada che è buia, questa strada di Tornano dell'Amore, se mi bonnano, quel pezzettino di rettilineo, non si vede nulla, è tutto buio, poi ci sono i fari delle macchine che ti abbagliano dall'altra parte e cioè non riesci a vedere gli ostacoli, li vedi all'ultimo momento. E poi li passano tutti articolati, passano, mamma mia. Se ti sono dicendo tutto pieno di camion di lì, e hai detto di notte, io dico, come ti vai a passare tutti i camion di notte, è pericoloso. Sì, già lo so, è domenico che si esce di notte per andare a Olbia, a fare più conto. Quattro di due c'è tutte le ruti, quasi tutte le ruti almeno. Vabbè, lui riprenditi, dai, se no stiamo parlando solo lui. Allora, riprende che sto un attimo una cosa. Diga, stai dicendo un lì con cosa stai uscendo? Io. Adesso? Con l'Intec. Stamattina ho telefonato a Cagliari, mi hanno dato delle informazioni, Natalì. Oh. Cose già detto da gente sicura, non da niente di cosa, riguardo dei microfoni preamplificati, delle antenne, eccetera, eccetera. Beh. Ho telefonato proprio all'ispettorato, mi hanno passato i tecnici, gli ho fatto una domanda, mi scusi, gli ho detto, ma si può detenere un apparato, un HF, come uno che ha la licenza di SWL, senza fare la denuncia alla polizia, mettendoci il tappo? Ho detto, certo che si può detenere. Via, se non uno come fa a ascoltare? E poi gli ho fatto la domanda delle antenne. Sì, a tutte le antenne puoi tenere, basta che abbi la licenza. No, di tipo di antenne, perché stavamo parlando di... Ha detto, mi scusi, ma mi è tolta una curiosità, ha detto, ma per il fatto delle antenne, perché prima si diceva che si dovrebbe valorizzare solo un'antenna, un'antenna da un quarto d'onda, ha detto, dal 1973 è uscita la legge, che è stata, non esiste più quella legge, tu puoi usare qualunque tipo di antenne, anche le direttive puoi usare dalla banda cittadina, purché rispetti la potenza di 4 watt, quello lì, puoi usare delle 5 ottavi, tutto quanto, dice, quello che vuoi puoi utilizzare, e poi gli ho fatto la domanda dei microfoni preamplificati. Cosa fanno adesso per qui? Non sai cosa mi ha risposto dei microfoni preamplificati? Dice, gli è arrivata una circolare a loro che dice, hanno fatto una prova in laboratorio, hanno preso un apparato omologato, hanno messo un microfono preamplificato, hanno controllato tutte le armoniche, le spurie, si sono resi conto che non c'è nessuna variazione, nessun aumento sostanziale di disturbi, parliamo di apparati omologati, perché c'hanno dei filtri, dei limitatori, hanno detto, mi stava spiegando, ha detto, per cui li puoi detenere, non c'è nessun problema. Il problema nasce nel caso che tu modifichi l'apparato. E solo in quel caso lì c'è tipo sono che hai problemi, però se tu c'hai un apparato omologato non ti dicono niente, tra l'altro questo è anche un radioamatore, mi stava spiegando tutti i particolari, e poi quello che mi ha meravigliato mi ha parlato di antenne direttive, puoi utilizzare anche le direttive in una banda cittadina. Già, vuol dire che non influiscono, capito? L'importante L'importante è che tu usi un apparato omologato. Se tu usi un apparato omologato non ti cerca nessuno, però se appena appena ti arriva a usare qualcosa omologato e arriva una denuncia, una cosa di qualcuno che sta disturbando, noi ti facciamo un nuovo luogo. Perché questi si modificano gli apparati omologati, l'apparato omologato prima cosa c'è il visuale di suo dentro, attaccato all'antenna, quello che c'è attaccato alla bocca dell'antenna, e quello è già un filtro, quindi l'emissione basta che si ricordate a chi ti studi, a nessuno. E poi mi stava parlando degli sblatter, e poi ha detto, per il fatto degli sblatter, per dire, dice, puoi sblatterare a uno, per dire, stai facendo sul canale 10, sblatteri quello che è sul canale 11, 12, nessuno ti può dire niente, dice, ti puoi fare la curva per l'acqua, nessuno ti può dire niente, perché non hai protezione, non so se le stai studiando tu, protezione primaria, secondaria, per le, quando c'è diritti di trasmissione, dice, ma le banche cittadine non esistono queste cose, per cui se uno ti disturba a te, che c'è più forte di te, non gli puoi dire niente. Cosa gli dici? Niente. L'importante è che sia omologato l'apparecchio e che non distruggi le televisioni. Quello è l'importante. Allora questo ti posso dire, una persona veramente preparata, lui come tranquillo per me, che sono un radioamatore, stavo parlando anche di altre cose, metto tutto in generale delle persone, per dire, loro intervengono, dice, noi interveniamo solo quando sono casi molto gravi di gente che, per dire, stiamo disturbando le televisioni o per dire, c'è una denuncia o quando, per dire, si scopre che questo, dice, ogni tanto ne fanno qualche minuto la fanno, quando, per dire, uno entra su frequenze radioamatoriali o cose del genere, non radioamatoriali, frequenze private, diciamo, di quelle per gli aeronautiche, cosa del genere, a quel punto dice ti fanno nuovo, però una banda cittadina dice sono 4 gradi, ormai non ci stiamo più andando. Ecco. Da lui, posso dire veramente una persona che mi ha fatto piacere parlarci, proprio ti rispondeva a modo, diceva tutte le leggi, perché prima ho parlato con questa signora, mi ha detto no, non c'è bisogno della detenzione, però ha detto stai attento se tu utilizzi uno di quegli apparati, per dire, facciamo un esempio di un 440, tu ci metti il tappo, cioè le togli il microfono, non ce lo fai trovare senza microfono, nessuno ti dirà niente, però se ti scopriamo col microfono attaccato, a quel punto ti facciamo un nuovo. Il discorso se ti sentiamo trasmettendo, e loro ascoltano tutte le ore del giorno e della notte, tieni presente. Infatti per loro se ti sentono parlare con uno di quegli apparecchi, giustamente fanno il loro dovere. Ma è vero già. Sì, perché io ho fatto, ho detto, ma mi scusi un attimino, comprami un ricevitore, io dice, sto studiando, ho detto, per prendermi la patente, ho detto, se mi compro un ricevitore per le bande radiomotoriali, quello, come si chiama, un ricevitore Sirio, dico, costa una barca di soldi, a quel punto la gente, come me, si compra un ricevitore, un trasmettitore, un 140, un 440, e lo utilizzi per, sì, ho fatto la stessa cosa, l'ho fatto io, dice, perché hanno delle cifre esorbitanti, quando ho iniziato io la stessa cosa, ne ho comprato, poi ho dovuto comprare l'R5000, ho detto, come ricevitore, però costava troppo, a quel punto poi dice si è preso un altro apparato, perché dice costano troppo questi ricevitori, e nessuno te lo viene, addirittura adesso non è neanche più necessario fare la denuncia, perché prima dovevi fare, sino a 2003 dovevi fare la denuncia di detenzione e per conoscenza, la polizia per conoscenza doveva andarla all'ispettorato, indicando gli apparati che avevi, eccetera, eccetera, e lo utilizzavi solo, adesso invece cioè, non c'è neanche più bisogno, non è più necessario avere la licenza di SWL, perché da 2003 la può avere chiunque, basta ascoltare, guarda che tu ascolti le bande radioamatoriali. Ma se tu non hai il nominativo SWL non puoi fare i diplomi che ho fatto io, capito? Là poi non ha discorso, io ti sto parlando di detenere un apparato HF, la legge te lo consente, l'importante è che non te lo trovino mai col microfono attaccato in funzione, cioè trasmettendo, cioè che ti registrano, perché sennò ti fanno nuovo, però tu puoi utilizzare un apparecchio HF verso la ricezione. Io questo non lo sapevo, io pensavo bisognasse fare la denuncia alla polizia e poi, come sapevo prima, portarlo, mandare per conoscenza all'ispettorato. Beh, assolutamente no. È tutto cambiato, non è più come prima, no? Vabbè. Se addirittura mi ha detto Burlo, sarebbe dice anche un controsenso, perché tu mi denunci che c'è un apparato 440 per dire, ne togli il microfono e poi non lascia stanza, ma lascia apparato con il microfono attaccato, mi dice, questo dice, è un controsenso, dice, per cui si sono resi conto della macchina e hanno detto lasciamo perdere tutto quanto, ci fidiamo di quello che avete, l'importante è che non lo utilizzate. se tu non lo usi a parlare, lo usi solo per ricevere, va anche bene, no? Ma quello che poi mi aveva avviato più di tutto è dal fatto dei microfoni. Mi ha detto, no, i microfoni abbiamo fatto dalle prove in laboratorio, da Roma la circolare ci è arrivata, sono state fatte le prove e si sono resi conto che i limiti sono di gran lunga inferiori a quello che ti dice la legge, cioè i disturbi, perché loro parlano di disturbi, cioè su altre frequenze, le armoniche. Ha detto, non c'è una grossa differenza con l'amplificato o no. L'unica cosa dice, tipo, sbatteranno i canali adiacenti e poi rompere le scatole a quello che c'è vicino, che magari che ci abita vicino, per cui dice, però ai fini legislativi non ti può dire niente nessuno perché non c'hai protezione, non è tutta la protettiva, diciamo, come ce l'hanno per dire i punti ripetitori o le frequenze primarie nelle bande radioamatoriali. E quello è vero. Dice, se ti va della Bernacchia della Zeni, se no te la dovrà fare tu, così mi ha detto, con le precise parole. Vabbè, se quello non si poteva dire. Capiterò io sono omologato sempre, capito? Vado più che bene. Chi mi sente, chi non mi sente non mi sente. Sì, no, c'è ragione, sempre, infatti è sempre meglio stare dentro le regole. Va bene, abbiamo parlato pure troppo, altro riprendi da tutto. Ciao, ho sentito il discorso. Era ora che qualcuno intervenisse su queste cose qua, perché secondo me non ha senso, perché se tu esci con un apparato normale, con un microfono amplificato, cosa è? Puoi sblatterare, ma non puoi fare altro, sempre che si quattro watt, no, non è che esci di più e ne di manco. Guarda Roberto che non c'è niente di ufficiale, attento. No, stamattina gli ho telefonato, me l'ha parlato questo di Cagliari, del coso. Prima mi ha parlato con quella di queste cose, la funzionaria, ma poi che mi ha detto, ti faccio parlare con i tecnici che loro sono più addentrati in questo campo. E mi ha detto tutti, sono rimasto a bocca aperta, mi ha detto dal 2003 sono cambiato un sacco di cose. Mi ha parlato anche di antenne direttive, dice tu puoi utilizzare nella bella cittadina e nessuno te lo vede. Mi ha detto, ma mi tolga la curiosità, detto, per il fatto delle antenne, perché noi teoricamente non le possiamo utilizzare le 5-8. Ha detto, sino al 73, ci sono state delle circolari nostre che ci hanno confermato che potete utilizzare anche le direttive nella banda cittadina. Infatti io sono rimasto stupito, ho detto, una cosa stranissima. Tu piazzala, metti il cerottolo e piazzala e poi mi ricordo che succede. Questo è la rete, è un grandissimo farfallone. Comunque rimango in corrizione, non voglio intervenire su niente. Però ti posso garantire che sono solo farfalle quelle che ti hanno detto. Buonasera a tutti, rimango in ascolto. Ti sto riferendo a quello che mi ha detto, siccome mi ha detto Fesseria e Fesseria di Sovvivente, lui mi ha riferito qua. Questo è un radioamatore, si è presentato come radioamatore, è un tecnico che fa i controlli degli apparati quando vanno in giro, dice noi controlliamo tutti gli apparati che non ci sono problemi, c'è uno che c'è anche a lavorare su questo campo, oltre che essere un radioamatore. Se chi vuole vieni a mandarti uno scritto, una gazzetta ufficiale dove ci sono scritte queste coglionate e poi vediamo se è vero. A me non mi risulta. Capito? A me non mi risulta proprio. Quindi va bene così, ti volevo solo dire questo. Ripeto, buonasera a tutti, rimango in ascolto. Vai Natale, riprendi. Luca ci sei. Ma che bello sarebbe avere una gazzetta ufficiale, almeno sei sicuro di tutto. La gazzetta ufficiale, l'articolo, quello dove parliamo della detenzione degli apparati, me l'ha letto proprio quella signora, si chiama Secchi, quella responsabile dell'SWL, e me l'ha letto l'articolo, dice apparato radioelettrico in ricezione, parla, non più trasmissione, che dice apparato, la legge parla genericamente di apparato radioelettrico, per cui non identifica apparato trasmittente che usi solo in ricezione oppure ricevitore e basta, apparato radioelettrico, dice, lo chiamano adesso con la legge nuova, da 2006 in poi, e me l'ha ripetuto un paio di volte. Quindi ecco la signora Cecchi che ci ha dimenticato apparato radioelettrico di debole potenza. Mira che te l'ho detto io. No, io sto parlando, Claudio, di ascoltare le bande radioamatoriali con un apparato trasmittente. Non è assolutamente vero, l'SWL specifica da 2003 in poi non c'è nessun decreto legge dove ci sono scritte queste cose, gazzetta ufficiale non è mai uscita, quindi per la legge, per gli articoli articoli della telecomunicazione sono valide le vecchie leggi, e questo te lo posso garantire. Si parla ancora di riccia trasmittente per l'SWL e di apparato riccia trasmittente di debole potenza per la banda cittadina, quindi debole potenza si intende baracchino con 5 watt. Io sto parlando di SWL, Riccardo, non sto parlando di utilizzare un apparato in trasmissione, io sto parlando di utilizzare un apparato HF in ricezione, senza microfono. Mi ha detto, l'importante è che non venga utilizzato in trasmissione, tu puoi usare lo stadio ricevente della parte di un trasmettitore, solo la parte ricevente. Ti ho detto così, va bene così, vabbè, a me non mi risulta, ribadisco, non mi risulta. L'SWL è abilitata per i ricevitori HF, VHF e UHF. Basta, ricevitori. Ancora oggi si parla di ricevitori, perché io l'ho fatto avere da poco ad una persona qua a Sassari che parla con voi senza fare nomi, gli ho spedito tutto io ed è arrivata la licenza SWL dove specifica ricevitore HF, VHF, UHF in banda amatoriale. Non parla di apparato HF senza microfono, è una grandissima stronzata. No, aspetta, mi sono spiegato, non ho detto così, io gli ho fatto soltanto una domanda, io gli ho detto, anziché utilizzare un ricevitore, posso, e lei mi ha detto, adesso non si viene più identificato come ricevitore o trasmettitore eccetera eccetera, bene, viene identificato con la legge del 2003 poi come apparato radioelettrico, non più trasmettitore, ricevitore o parte ricevente, dice apparato radioelettrico, così ha detto. Se loro sono così tanto spinti, perché non ti mandano un decreto legge dove c'è scritto o c'è l'aggiornamento dal 2003 al 2008 che sono passati 5 anni, vabbè, non diciamo fesserie, va. Comunque, ripeto, va bene così, perché a volte quell'armiere ti dice che la pistola te la può vendere anche senza porto d'armi, capito? Poi ti trovano senza porto d'armi e ti arrestano subito, oppure tu puoi andare a sparare, però non devi andare a sparare. Ci sono tante cose che si dicono ma che non si fanno. A tutti dimmi che te lo dico con molta precisione e con molta sicurezza. Non è assolutamente vero quello che ti hanno detto, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma boh, sono al computer che sto facendo una lettera, se non proprio un casino. Riprendi a tu. Eppure mi voglio accertare tutta questa questione, se è veramente così. Allora io chiamo a Cagliari, a me mi ha detto chiama anche a Sassari, dice com'è chiamato a me, potevi chiamare a Sassari, uno non ha mai sentito dallo scritto di chiamare a Sassari e vediamo un po' cosa dicono. Chiama Sassari, domani passi in officina, ti do il numero di telefono anche chi devi cercare e le dici queste cose che ti hanno detto a Cagliari, tu dico io con chi devi parlare e poi senti cosa ti dice. Ce l'hanno da qualche parte, ma ho chiamato anche queste persone, dice queste indicazioni che ti do io te le puoi far dare anche da Sassari, ma l'altro con la signora Sicchi mi ha detto, perché io mi ha detto per cortesia con chi sto parlando, voglio avere il suo nome, e me ne si è presentata e mi ha dato il nome, e questa è la responsabile dell'SWL di Cagliari, della regione, ispettorato regionale. Dopodiché io gli ho fatto altre domande per i microfoni, e mi ha detto guarda, parla direttamente con i tecnici, mi ha fatto parlare con questa persona, si è presentata, se non mi ricordo come cavolo si chiama, tra l'altro lui fa parte anche delle commissioni d'esame, e mi ha detto che lui era anche un radioamatore, era stato come CB, ma ha detto tutti i particolari, che riguardo dei microfoni mi ha detto che da Roma gli è arrivata una prova di laboratorio, stavano apparati omologati, hanno visto che i disturbi non aumentano di tantissimo, per cui sono ancora entro i limiti di legge, le tolleranze, per cui ha detto l'unico problema è che può sbatterare qualche canale, però a livello di armoniche non interferiscono oltre i limiti di legge, parlando di apparati omologati. Poi ha detto se tu inizi a fare dei giochetti a modificare, a quel punto salta tutto, però se tu usi un microfono su un apparato omologato, la legge te lo permette, perché la legge te lo permette, non è la legge te lo permette, noi non interveniamo perché abbiamo verificato che non ci sono disturbi di grossa rilevanza. Beh, questa è una cosa che ti sta facendo lui, noi non interveniamo e noi no. La legge non ti permette di usare né apparato non omologato né microfoni da tavolo che non siano di tipo manuale. Questa è la legge, ok? Non c'è stato nessun decreto dal 2003 al 2008 che ha tirato fuori queste leggi che questo gran signore ti ha letto, pertanto la legge è sempre quella e quella è valida. Punto e basta, Roberto. Radio Maturi e FRCB. Quelle sono le leggi, quelle sono le norme e quelle bisogna eseguire. Poi ti ripeto, se lui è così intelligente o se ha ricevuto qualcunque, già mi informo io domani a settarli, mi informo io da chi so. E poi te lo dico di persona, se è così o non è così. E ti porto anche il decreto legge dal 2003 al 2008 senza nessuna variazione. Addirittura mi ha detto, non se ne dice delle antenne, sì, c'era 73, si parlava di un quarto d'onda, però mai dice è caduto col decreto, viene stato abrogato. Mentre per i microfoni mi ha detto, non è mai stato scritto da nessuna parte che non si possono usare i microfoni preamplificati. Dice, non esiste, dice, trovami la legge dove c'è scritto questo, ma le precise parole sue. Come mai allora a me nell'80, se mi ricordo, 80-81, quando ero venuta l'esco posta a casa a fare un controllo, mi aveva trovato allora il vecchio Tamer più 3 e me l'aveva addirittura sequestrato, non ho capito. Stiamo parlando dell'80-81, adesso non mi ricordo. Claudio, lui di questo fatto qua mi ha detto non esiste la legge che ti dica che non li puoi utilizzare, non è mai esistita. Poi se c'era qualcuno dice no, tu stai disturbando, con questo disturbi, abbiamo verificato che stai disturbando, poi l'altro discorso me l'ha confermato anche lui, perché se dimostri che tu stai disturbando te lo sequestrano, dice questa non quanto c'hai. Però dice, a proprio il laboratorio loro hanno preso degli apparati omologati con dei microfoni amplificati e hanno notato che non ci sono delle grosse differenze, dico, come aumento delle armoniche, diciamo, delle intensità delle armoniche. Queste sono le parole sue. Poi mi ha detto, se tu quello stesso apparato lo utilizzi su una microfono, su un apparato non omologato, sei tagliato fuori, cioè a quel punto se disturbi entriamo e ti facciamo un nuovo e ti troviamo con un apparato modificato. Ma sono sempre le stesse cose che hanno sempre detto, se non recchi danno puoi fare così e puoi fare colà, nessuno se recchi danno allora il problema sussiste. Il problema è che gli apparati che hanno una certa dimestichezza, soprattutto modificati o cosa o preamplificati, hanno sempre disturbato, perciò vabbè, comunque mi informerò, poi ti farò sapere, ma non credo che ci sia nessuna modifica di legge, perché non, io ho lo statuto nazionale che ci mandano le sezioni e quindi non lo leggo sempre, ma non c'è scritto assolutamente niente. Anzi, adesso sono nel sito del Ministero delle Telecomunicazioni, guardo se ci sono variazioni dal 2003 al 2008. Va bene, riprendetevela, buonasera a tutti, alle prossime, ciao ciao. Ciao Claudio, chi sei? Luca, avanti tu. Carino, ci sei. Antonio. Dimmi, Roba. E tuo padre? Non lo so, forse sta facendo qualcosa, non so se è all'ascolto. E io penso che dopo questo argomento un po' di gente si è rimasto con le orecchie aperte. Non ho fatto neanche in tempo a prendere il microfono e tu hai fatto già Antonio, Roba. Su questi argomenti qua, perché sono argomenti che possono interessare a un sacco di persone. Ah, ho capito male io. Pensavo che era... lo stavi dicendo in un'altra maniera. No, ho capito male io. Certo che sono discorsi... Mi sto ascoltando. Però non è che ne abbia pure di parlare, da. Ma ci vuole dare queste troppo luci. Sì. Tu stai pensando che c'erano altre persone di quell'altro genere ascoltando? Cioè? Scusa? Di quelle persone che controllano, tu come tu stessi dicendo. No, negativo, no. Pensavo che... No, ho capito che... Forse ho capito male, che stavi dicendo che... Che eravamo spaventati. Ecco perché non entro. No, io sto dicendo, ci sono un sacco di persone che non sta entrando, però sta ascoltando, ho detto, questo argomento, che è un argomento di utilità per tutti, è da verificare naturalmente, io ho detto quello che mi hanno detto a me, poi adesso sente anche un po' Claudio e ci dirà le sue, Poi naturalmente sono tutte cose da verificare. Io ho letto quello che mi hanno riferito stamattina, io ho chiamato per altre cose, ho fatto queste domande e mi hanno risposto così. Se poi mi hai detto Paura è un altro discorso. Io vi ho riferito a quello che mi hanno detto. Per quello ho detto, un sacco di gente magari sta ascoltando questo argomento, almeno i CB, che può essere una cosa che interessa anche a loro sicuramente. Vabbè, positivo. K. Va bene, va bene. No, diciamo che va bene, no. Questi discorsi qua sono più che ultimi, roba. Stavo ascoltando. Tutto qua. Ma meglio che sia così. Se chiamo ripeto così, poi non so. Io va bene lo stesso punto. Va bene. Dimica. Guarda, al computer non c'era niente, ho disturbato un amico che è sempre molto gentile, che fa parte qua della sezione di Sassi. L'unica variazione che c'è stata è una variazione per quanto riguarda le bande amatoriali e i watt, quindi da 300 watt siamo passati a 500 watt di utilizzo. L'unica variazione che c'è stata è l'aggiunta dei 6 metri dal 2003 al 2008, quindi hanno aggiunto una banda più per quelli amatoriali, e l'unica stronzata che hanno fatto, hanno inserito gli LPD nelle bande amatoriali. Altre modifiche non ce ne sono state, decreto legge non esiste, gazzetta ufficiale non esiste, le leggi attuali sono quelle in vigore dal 2003 al 2008 senza nessuna variazione. Ok, quindi si è impossibilitati all'uso e utilizzo di direttive, si è impossibilitati, queste sono cose di adesso, di 5 minuti fa al telefono, si è impossibilitati all'uso di trasmettitori non ricevitori per quanto riguarda l'SWL e si è impossibilitati agli apparati superiori ai 5 watt con microfoni da tavola e lineari da 0 a 100 watt per quanto riguarda la banda cittadina. E qua ti stoppo, chiudo, non voglio intervenire più. Mi sono tolto il coso in modo che tutti lo sappiano. Ciao. Io mi ero entrato, vabbè, poi verificheremo, dai, diciamo, dovremmo trovare stato, bravo. Comunque sono degli articoli di legge per i radioamatori che possono utilizzare apparati trasmittenti riservati ad altre bande, non consentite l'utilizzo a loro, proprio articolo di legge. Adesso qua non ce l'ho portata in mano perché l'ho portato da un'altra parte, e si parla proprio di un apparato trasmittente, c'è scritto la domanda, può detenere, eccetera, questo dell'ARI, scaricato dal sito dell'ARI, un radioamatore può detenere un apparato trasmittente non abilitato, dico, con le bande abilitate ai radioamatori, utilizzandolo soltanto per la parte ricevente, e non è più necessario fare la denuncia, c'è proprio scritto questo. Io per quello che vi ho fatto la stessa domanda per gli SWL, e questo lì mi ha confermato quello che ti ho detto prima di te. Poi l'ho preso, non mi fa dire parolacce, comunque fischi per fiaschi. Stiamo parlando di radioamatore patentato, può usare qualsiasi tipo di apparato, che sia ricevente o sia trasmittente. SWL no, è un radioamatore che può usare esclusivamente il ricevitore in ricezione senza che sia addirittura uno scanner, utilizzato solo esclusivamente nelle bande amatoriali. Poi qua, Natalino queste cose le sa, non c'è bisogno che intervenga io, perché è a lui che mi pare che sia uno dei primi SWL del nostro gruppo, dei primi Natalino. Io sapevo che era così, infatti, ma bisogna vedere questi come la stanno prendendo. Ognuno si fa le leggi come vuole, la roba vuole scritta, vabbè. Naturalmente deve esserci qualcosa di scritto, perché a voce non significa niente. Magari ho parlato con Rubin Mubotanti, non mi vuole anche vivere, mi ha detto delle cose così a memoria sua. Ci vuole una gazzetta ufficiale, come ha detto Claudio, così sei tutto di più. Ha detto così, boom, guarda, una volta che ho una scommessa, io avevo chiamato giù a Cagliari della concessione. Cagliari stava assistendo, sicuramente mai non aveva capito, stava assistendo che c'era da 10 anni, e invece non ha più una scadenza. allora decade automaticamente, quando tu non paghi non fai più il versamento, non devi fare neanche la DZ per dire, non la devi fare più, tu non paghi più e decade, poi se non vuoi iniziare devi fare tutto a nuovo, come hai fatto prima di fare per dire adesso, no? Devi fare tutto a nuovo. Ma per i CB si fa la peluca? K. Per i CB sì, però la licenza di radioamatore però dura 10 anni, vuole rinnovata, mentre la patente non ha scadenza. Sì, la licenza di radioamatore non so quale 10 anni, no, ma non della buona cittadina. Sì, infatti tacito, rinuncia tacita si chiama, se non paghi hai rinunciato e se devi riappartire devi di nuovo chiedere l'autorizzazione, devi rimandare di nuovo la domanda, eccetera. Ma questa è un'altra cosa. Sì, sì, mamma, prima si faceva la disdetta, no, roba? Facevi due righe, come tu, non puoi più parlare, cioè stai attaccando tutto praticamente. Invece adesso no, adesso praticamente decade automaticamente, cioè, vabbè, Claudio aveva detto, dice che ti mandavano un coso a Cagliari, invece non è così. Praticamente tu fai uno scritto, io ho sottoscritto, ti seccai, cosa succede? Ma come hai fatto tu, Robert? Parla loro, la Caia, non ti mandano più niente. Allora, io la diretta l'ho fatta quando ancora non era come stai dicendo tu, per un amico mio che non l'aveva fatta, perché se gli faccio solo pagare le more, perché questo è dal 2003 in poi, questo che mi stai dicendo tu, te lo permette la legge, ma prima non si poteva fare, bisognava fare la rinuncia, cioè la, come si chiama? Non mi ricordo come si dice esattamente la parola, dovevo mandare una lettera, due righe, che io l'ho mandata da parte mia a nome di questo, cioè da parte, l'ho mandata io a nome di questo amico mio che c'era, che aveva con questo baracchino. Sì, ma adesso sì, vabbè, quello lì sì. Così, però praticamente adesso è così, cioè tu non paghi più e automaticamente decade, no? Non esisti più per loro, cioè tu se ti trovano modulando a te che tu non hai pagato il coso, lì ti temono bene, bene di lusso, di quei zimbi che te li ricorderai tutta la tua vita. Sì, c'è la denuncia penale, oltre che la sanzione c'è una denuncia penale. C'è anche la denuncia penale, è vero, giusto. No, ho visto noi adesso, io sto studiando, Luca, non voglio dire niente, mi sto studiando per la patente, ci sono anche le sanzioni, se tu ti vedi le multe ti metti le mani in testa, Luca, cosa c'è di multe? Ma migliaia di euro. Lo so. Adesso, per esempio, io stavo ascoltando lì a Concervo, aspetta un attimo Roberto, mi ricordo roba qua, allora stavo ascoltando lì a coso, a Concervo ricevitore, nell'inclinazionale, e c'era questo tipo ruttava, metteva la musica, mi mangia un casino, e stava dicendo questo tipo qua, che non so, 8 anni fa, 7 anni fa, ne ho beccato uno che faceva la stessa cosa. E ha detto, io non trovavo, non ti trovano, ma se ti trovano, io dico che tu dici, ma perdono in greco. È incavolato questo qua. E così adesso per qua, la città Ciappani, a me che nessuno non si lamenta, però già devo dire due cose a Claudio, non lo trovo di persona. Ma qua nei baracchini non puoi farci niente, Luca, non hai protezione, non si chiama, non c'è lo statuto protettivo qua, come per i radioamatori loro, se tu disturbi un altro radioamatore, quello può intervenire penalmente e ne tolgono la licenza, prima gli sospendono la licenza, dopodiché gli mettono la multa e poi la possono anche revocare, ma qua alla banda cittadina non hai statuto di protezione, per cui chi si fa dei ruti, o lo fai tu o ti sei detto e te lo tieni. Ah, ma neanche qua puoi disturbare, no, beh, lo sai. Non stiamo parlando di disturbi, io dico, se io me ne vado sul canale dove stai parlando tu e ti fa parlare di disturbi io, per dire, se ti offendo e so che sono io, e sai che sono io, mi puoi denunciare perché ti ho detto una parolaccia, cosa del genere, però tu non puoi dire niente, non hai, a livello penale non ti puoi fare niente nessuno, cioè non è che puoi denunciare che quello ti sta parlando sopra quando stai parlando tu, non c'hai protezione, mentre nelle bande radioamatoriali ci sono l'attributo primario e secondario, dove ci sono le protezioni. se tu un radioamatore disturbi un altro radioamatore o disturbi un ponte ripetitore o cosa del genere, li intervengono e ti fanno un nuovo nome, ma alla banda cittadina non c'è protezione. Vabbè, se vuoi già c'è la protezione, non ti preoccupare, già intervengo lo stesso, non è come dici tu. Se tu stai parlando tranquillamente e uno ti disturba, lo puoi fare, lo puoi fare. Ma tutti dici che non è molto di tu, Robè. Eppure mi informo, chiamo la signora, adesso non mi dico, c'ho il numero comunque. La chiamo e mi dice tutto. Oh Luca, noi stiamo parlando di apparati omologati, di 5 watt, come massimo 5 watt di potenza. Tu, io ti parlo sopra, perché sono l'antenna migliore, una posizione migliore della tua, quello che ti piace. Tu non mi puoi fare nulla. A prendere quello, Robè. Uno è parlarmi sopra, va bene, e uno è disturbare un'altra cosa. O ti mando la portante quando parli tu, tu al fine di cosa non mi puoi fare niente, ai fini penali, non mi puoi fare niente, perché non c'hai cosa di protezione tu. Ti ha detto, non è vero, non è vero, cioè, siete negazzati, ah cioè tu mi puoi coprire, cioè non mi stai coprendo, scusa, tu mi stai coprendo a me. Non è vero Robè, comunque domani mi informo, vedrai domani che mi informo e vediamo se come dici tu. Luca, io sto parlando a livello, per dire, tu stai parlando adesso, o stai parlando con Claudio o con altri piatti, io ti mando la portante come quando parli tu, tu non mi puoi fare niente, a livello, parliamo legislativo di bande cittadine, nel senso di ministero di posizione, tu mi puoi denunciare alla magistratura o come si chiama, per altre cose, la magistratura ordinaria mi dice, quello lì mi sta facendo venire mal di testa, sto presentando esaurimento nervoso, per altri motivi, però a livello penale, parliamo del discorso di bande cittadine, di roba di trasmissione, non mi puoi fare, non ti posso fare niente. È sicuro, vabbè, comunque già mi informo. Comunque non si può disturbare, sia qua che le bande radioamatoriali. Perché, cioè, tanto male, mi disturbi, ora ci tengo a fare il baracchino io, così per bellezza. Allora, le bande radioamatoriali, quando entri ti devi presentare, devi dare nominativo all'inizio, alla fine, durante la conversazione, eccetera, eccetera. Sanno che sei tu. Qua io ti posso dire, dai, un nome fasullo. A me non mi risulta che Luca abita in Piazza d'Italia, al numero 5, non risulta niente. Però quando do il nominativo, io so che ti chiami. Luca abita in Viali, sei nato là, eccetera, eccetera. In banda cittadina, tutte queste cose non esistono. Vabbè. Sì, dimmi. Hai ragione Luca, perché nel vecchio statuto così chiamato disciplinare che allegavano alla vecchia concessione, quindi proprio datata 1973, dove non c'è stata e non è stata mai applicata nessuna modifica, quindi l'articolo 32, dice proprio che tu non puoi recare disturbo né a chi sta praticamente parlando né a chi è in procinto di parlare, quindi il discorso è quello che sta dicendo Luca, quindi non si può disturbare neanche qua. Claudio, se tu esci con un watt e io esco con 4 watt, c'ho un'antenna di 5 ottavi, tu hai una gran plane e io voglio parlare con te e non voglio, e Luca esce con un watt, non sono problemi miei, i problemi sono di Luca. Se io ti intercetto e dico che sei tu, Roberto, che mi sta disturbando, io vado alla polizia postale, ti denuncio verbalmente, vengono e ti fanno un controllo, capito? Quindi la realtà è quella, è uguale per tutti. Ma se io sono in regola, nel senso sto uscendo con quella potenza lì, tutto regolare, apparato omologato, eccetera, eccetera, e dico, beh, cosa mi dici? Beh, tu ti metti i vari sotto casa tua e parlare con te ti sente. Io da questa distanza, che c'è una posizione buona, non ti posso far vedere con l'anghero, per dire. Ma non si può disturbare comunque, no? E così come ha detto Luca, anche qua non si può disturbare. Non so su quale base poi possano intervenire o fare, ma non si può disturbare neanche qua. È così. Cioè, nel vecchio disciplinare, perlomeno quello che c'ho io, legato alla prima concessione, che è del 1973, c'è un articolo di legge che parla di quello lì, che proprio è disciplinare del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, allora così chiamato. Vabbè, vi sto ascoltando comunque. Guarda che c'è anche Natalino, Antonio, fatti girare, ciao. E vabbè Natalino. Comunque così roba, non puoi dire, per dire, sai il mio soprannome, no? Non lo puoi dire, non lo devi dire. Guarda, ce l'ho io la concessione del Vicca, c'è scritto tutto. Per chi non lo sa, c'è scritto tutto. Sì. Sì, è vero. Non puoi parlare male, dire parolacce, parlare in gergo non puoi parlare, deve essere chiaro a tutti quello che sta dicendo. Non puoi arrecare nessun tipo di disturbo né qua e né alle televisioni, che è più importante pure. Se disturbi di ne date ne faccia tutto. No, se non c'è stata nessuna variazione nello statuto, è sempre come i vecchi tempi. Stiamo parlando di disturbo di importanza o di disturbo di parolacce? Io sto parlando di disturbo importante, non di parolacce. Naturalmente se uno si mette a dire parolacce e cose del genere lo puoi denunciare, perché per, come si chiama, turbo loco, come si chiama, adesso mi viene la parola. Ma scusa Roba un attimino, adesso tu stai parlando con Claudio, ok? Più o meno siamo lì come parità di potenza e ti disturbo a te. E tu sai che sono io, cosa fai? Ti sei zitto e te ne vai. Allora, ammettiamo che tu stai parlando con Claudio e io voglio parlare con Angelo, per fare un esempio. E cosa ti posso dire? Cosa ti posso fare? No, Angelo è più debole di te, tu lo passi, allora ti devo denunciare perché tu stai passando ad Angelo e non mi fai parlare con Angelo. Cioè, non puoi dimostrare questo fatto. Certo, se tu esci con 500 watt, oltre la potenza diciamo dei 5 watt che ti dice la legge, a quel punto dico attenzione che Luca c'ha questa roba qua, sta utilizzando questa roba, lo devo dimostrare naturalmente, non fare una denuncia. Però se io sono più forte di te, entro i limiti di legge, e non ti faccio parlare con Angelo perché io sto parlando con Claudio Sassari, cosa mi puoi fare? Non capisco cosa mi puoi fare. Aspetta Roberto, ma che tipo di disturbo stai parlando? Nello stesso canale o un canale adiacente? No, non ti capisco, a parte che è una banda cittadina, uno, tu anche non ci puoi parlare. E l'ha detto, se mi ascolta non ci posso parlare, cosa vuol dire questo? No, non è vero, c'è una banda cittadina Roberto, dice pure anche la parola, banda cittadina, cosa significa? Se l'ha detto, visto. Se tu la chiama Mattesio, no, mi sbaglio qua, correggimi, È così, come sta dicendo Luca, è la realtà ragazzi, è così. Noi da 20 anni a questa parte, a 10 anni a questa parte, da quando è che sia, facciamo i cacchi nostri 27, ma sì, dovesse svegliare veramente la legge e imporre tutto quello che è disciplinare e i decreti leggi dicono, noi dobbiamo parlare uno con l'altro in città e Alghiero dovrebbe parlare uno con l'altro in città, Porto Torre si deve parlare uno con l'altro in città, è così. E vabbè, adesso fammi vedere un disastro. Luca, tu sei vicino a Claudio, no? Ecco, spiegami però, non capisco il disturbo, se sei tu nello stesso canale oppure sei un canale, due canali più sopra, no? Vai. Ma facciamo un esempio più semplice, siamo tutti sul canale 10, allora Claudio era a Carbonati vicino a me, per dire, io sono vicino a Claudio, e parlavamo con lui, e io, come si chiama, quando parlavo con Claudio, non infibino a lui, oppure, non lo so, io ho un segnale più forte, non ti faccio parlare con Antanino che è dentro un buco che lui ha una gran play, cosa mi puoi fare, spiegami, non riesco a capire quello, a livello di legge. Aspetta, ma... Aspetta Roberto, spiegati, perché non ti capisco veramente, o non mi vuoi parlare tu, cioè non mi vuoi far parlare tu perché mi vuoi disturbare, non lo so, spiegati, per quale motivo, spiegati, se sei tu, se non arriva un conto, ok, ma se arrivo e tu mi disturbi, io ti denuncio a te. Allora, tu stai parlando con Natalino, Natalino mettiamo che sia in campagna dentro Sassari, dove abita lui, là, in un buco che non ha l'antenna, di che aveva la Mantova, va alla Grand Plain, tu vai alla Grand Plain lo stesso, io e Claudio abbiamo tutti e due la Mantova, come schiacciamo lui non ti faccio parlare con Natalino, tu cosa fai? Mi stai disturbando Roberto, io sto parlando con Natalino, tu mi stai disturbando a me, ho capito. Tu posso dire la stessa cosa a te che tu stai disturbando a me, la stessa cosa, siccome io sono entro i limiti di legge, ho la potenza entro i limiti di legge, a me non mi metta nessuno a parlare con Claudio, se poi tu non senti Natalino perché ti sto disturbando io, sono problemi tuoi, arrangiati tu, ma non mi puoi fare niente perché io sto utilizzando apparato monodato, antenna, tutto regolare, eccetera, eccetera. Scusa un attimino Roberto, sì, ma mi intendi, a me mi sono ignorante, va, cavolo, ma Natalino, ok, sto parlando, beh, Natalino, e te lo metti tu che sei più forte, non mi puoi disturbare, Robert, non mi puoi disturbare, te la faccio vedere il coso, se vuoi ti faccio prendere la fotocopia. Ma io non sto parlando con te, sto dicendo, io sto parlando con Claudio, lui abita vicino a me, a 200 metri da me, e io mi metto a parlare con Claudio. Tu a Zonaremo se stai parlando con Natalino, che Natalino arriva molto più basso di noi perché noi abbiamo una posizione migliore, eccetera, eccetera. Io sto parlando per conto mio, non capisco. Mica la mia, questa è la tua o la mia. Chi dice chi è più forte, le discussioni sono. Allora, guarda, sono due le cose, non mi vuoi far entrare, cioè non mi vuoi far entrare nella frequenza. Voi non mi accetti, vabbè, ok, questa è un'altra cosa, però se tu mi stai dicendo che mi parli sopra, mi stai disturbando, roba. No, ma non veramente, va, no, sentimi, se mi manca a te, no, non capisco quello che vuoi dire. No, se Natali, se hai capito tu, infatti, di qualcosa, non so. Ma facciamo l'esempio più semplice, tu fidati che con Natali ci avete due portatili, che uscite con un watt, e vi riuscite a sentire tra di voi proprio a limite di me. Io e Claudio stiamo uscendo con 5 watt e stiamo parlando per conto nostro. A voi non vi sentiamo perché siete troppo bassi. Cosa mi vuoi fare? Tu dici, ma non mi fai parlare con la testa. Ma io non ti sento perché tu stai uscendo troppo basso. Ah, se non mi senti, allora va bene, ok, va bene. Io pensavo che stavi dicendo che non mi sentivi. Ma se non ti spieghi, vabbè, io mica sono un mago a capirti così. Io sto parlando, sono esempio, no? Un esempio veloce, è come dire, sto parlando con Antonio, ok, o stai parlando con Antonio, mentre lo metto io, ti parlo sopra, tu puoi fare qualcosa, puoi andare a denunciarmi, perché ti sto disturbando. No, è così, Luca. Allora, facciamo l'esempio di Antonio, a me Antonio arriva a basso, tu arrivi molto più forte di Antonio, io sto parlando con Antonio e ti metti tu a parlare con Natalino o con Claudio e lo schiacci, io non ti posso dire niente perché tu stai parlando con Claudio, io sono a parlare di Antonio, i problemi sono di Antonio che è più basso di te, non posso dire niente, poi se tu mi dici quando sta parlando Antonio ti mando la portante, ti porto la bella, a quel punto posso intervenire in altri modi, dico c'è questo signore qua che sta rompendo le scatole, si chiama questo e quest'altro, sono così posso, però se tu sei più basso di me, io sono più forte di te, tu non mi puoi fare nulla, Luca. Non è così Robert, perché sono a ruota questa qua, Antonio è il più debole, io, Natalino, Claudio e tu siamo i più forti, anche lui ha diritto di parlare, a meno che non lo sentiamo, e va bene, ma se noi Antonio lo sentiamo tutti, diciamo, cioè fa il break, e poi magari entra, e se poi magari non lo fai parlare, ti può fare qualcosa a te, perché se non lo senti è un conto, Robè, è un conto, ma se lo senti non lo vuoi far parlare, è un altro conto. Non ci sono i gladiatori, cioè non è il momento dei gladiatori che dici devi rispettare l'ordine, ci sono nominativi, qua non esiste niente, è una cosa, una giungla, cioè non esiste, cioè tu ti chiami Luca e Luca ti puoi chiamare Bruno Francesco, Natalino, quello ti piace, non sappiamo che sei tu quella persona di lì, cioè non hai capito il discorso? Noi ci conosciamo tutti, però se entra uno adesso e si mette a parlare, io gioco Antioco e si vuole a parlare e non fa parlare a Claudio, tu cosa gli vuoi fare? Dai che sta Antioco, lo denunci, c'è un Antioco che sta disturbando a Claudio, e gare? Beh, se non si sa chi è, come qualche anno fa denunciato. E quello è tutto il discorso, non lo andiamo a fare invece, a me che non ti dà nominativo falso, però a quel punto lì ci sono altre sanzioni. E io lo so. Ma comunque sia, non puoi disturbare. Comunque dai già, vabbè, se capita già, te lo do perché tu la concessione non l'hai mai avuta. Adesso ti faccio la fotocopia e così te lo leggi bene. E poi ti fa una cultura. No, Luca, ma quello che deve essere educato, parlare, lasciare parlare gli altri, quello non c'è un bel dubbio, quello era il galateo, no? E se vuoi entrare in un circuito, in un circolo di persone, devi rispettare le regole. Però ti sto dicendo, ai fini burocratici, ai fini delle sanzioni, a te non ti può fare nulla nessuno, se tu rispetti la legge, dici io sto uscendo con i 5 quarti di legge, sono utilizzato un apparato omologato, voglio entrare e non mi fanno entrare, perché io posso dire anche non mi fanno entrare, voglio cercare di entrare, glielo faccio apposta perché non mi fanno entrare a parlare, posso anche dire così, no? Ma se scopri tu chi è che non ti vuole far entrare, tu vai a fare sport. posto, passa con sicurezza. Tu sei in regola, tanto di documenti e tutto, e poi fai qualcosa. Perché è impossibile roba. Cioè ti voglio guardare anche io, ti metti in regola, ti farò parlare. Deve buttare qua. E vabbè, tu ti sei dato, se ti sei fatto su un'altra camera, fa vedere con un altro, fa vedere un muro, cosa vuoi che ti dica? Cioè i canali sono liberi per tutti, nessuno ha il titolo di utilizzarlo. È come che noi diciamo il canale 10 è un canale di disastro, e dove c'è scritto? Da che parte c'è scritto che anche non può usare il canale 10? No, non è detto questo. Poi abbiamo 40 canali a disposizione, che sia l'1, che sia il 5, che sia il 10, che sia il 30, noi abbiamo 40 canali. Prima c'era il canale 9, il canale 9 non so se è tuttora, non so, è un canale d'emergenza, 9-19. Sì, vabbè, si diceva anche, cioè, non si è mai quasi mai utilizzato, lo tenevano di scorta quando erano tutti impegnati, lo lasciavano libero. Ma là, per dire, il canale 10 dice il canale di Sassa 10, e dove c'è scritto? C'è una legge che dice che il canale di Sassa è il canale 10. Poi c'è anche questo, vero? Beh, c'è anche questo. Se tutti quanti noi, usiamo un baracchino omologato, con un microfono normale, che dà 4 watt l'apparecchio, 4 watt, 4 watt e mezzo, a farlo 5, che di più no, non si può, andiamo tutti d'accordo, ma se inizia Guido a usare 50 watt, Guido un'idrata 30, si spostano la testa e si splatterano. Se si usano tutti qua, se usiamo tutti quanti, usciamo normali, con il corpo normale, non ci disturbiamo uno con l'altro. Ecco, cioè, purtroppo cosa succede è che quello c'ha un baracchino, questo viene sbigliato e ha un fattura. Allora mi sono sempre lamentato, è impossibile. Come cazzo, come fai? Come fai a parlare? È impossibile. Perché sentivo di sbattere, beh. Era impossibile. Purtroppo no, non ci possiamo fare niente. Quindi tu hai apparecchio, senti che se noi usiamo questo, non è che, cioè, no, per far contento a me dobbiamo mettere il baracchino omologato, no, purtroppo mi ha detto senti i golpi, la verità, oh, male, mi sono sempre lamentato, ti ricordi? E Luca? Adesso facciamo un'altra ipotesi, noi siamo sul canale 10, stiamo parlando di lui, c'è chi è quello che c'ha più vicino, tu Franco, oppure Claudio, quello che c'ha più vicino è Giovanni che è a 20 metri, e poi sta parlando sul canale 11, talmente arriva forte e sblatterà anche sul canale 10, e cosa li puoi fare chi su? No, nulla, nulla, roba, nulla, guarda, si può fare anche una cosa, è come stavi dicendo tu poco fa. Vabbè, ma comunque il discorso era diverso, perché se lo sentivi è un'altra musica, ma se tu lo senti, vai a fare il break, lo senti, però cioè, li parli sopra, lui ti può fare qualcosa, te può andare via a chiedere competenza, passa così così, ti cerca e non mi vuoi far parlare perché mi parla sopra. Io purtroppo ormai gli dicevo, ah, c'è un'antenna piccola, lui c'è un'antenna più grande, e non mi vuoi far parlare. Vai, ti denuncia, e passiamo di casino. Sì, ma scusatemi, tu stiamo parlando di persone che conosci, devi fare nome e cognome, se fanno la denuncia devi dire Luca abita in quella via lì, si chiama di cognome quello lì, a queste ore si è messo e ha fatto queste cose qua, si è messo a fare pernacchie, rutti eccetera eccetera. Però se non mi vuoi devi vedere a cosa lo denunci, perché non ti fa parlare con Claudio, perché Franco non fa parlare a Luca con Claudio, e vedi, ragazzi non frutti, ti dico. Vabbè, quello sì, loro si possono inventare qualunque cosa, ma dice parolacce, si fa quello, fa quell'altro, noi nel nostro canale non lo vogliamo, possono inventare qualsiasi cosa, una balla, cioè, quello sì. Sì, ma tu quando querela uno deve dimostrare le cose, sennò quello ti fa la controquerela e se dimostrano che sono male passi guai due volte tu, non è così facile, cioè è una cosa molto relativa, Luca. Se tu vedi che quello invece dimostri che quello ti usare 5 watt, sta utilizzando 500 watt e ti disturba, a quel punto è diversa la musica, però se lui dice io sono tutto regolare, tu cosa vuoi da me? Sono stato un altro canale, io sono sul 10 e mi piace mandare portante al canale 10, se non ti piace spostati un altro canale. Cosa gli puoi dire? Non gli puoi dire niente. Cioè, come io per esempio, sto parlando con Antonio, che era più basso, e ti metti tu a fare tra tra tra tra tra tra, E so che sei tu, io ora ti denuncio a te, sei casini che passi. Ma tu a che cosa mi denunci? Non sicuramente rispettando le comunicazioni fra una denuncia ai carabinieri, la polizia dicendo attenzione c'è questa persona che si chiama eccetera eccetera e mi sta recando disturbo, ma non disturbo di cioè, quello che teniamo per i radioamatori, un disturbo a te, mi fa venire il mal di testa per dire, perché mi nervosisce, disturbo, parliamo di disturbo fisiologico alla mente, al cervello, sono così, però se tu entri e mi hai portato io sono levato, tu a me non mi puoi fare più nulla, perché io non so di disturbo, si intende disturbare, entrare su bande, cioè con le amori che disturbano la televisione, entrare in bande radioamatoriali, eccetera, eccetera, quello è un disturbo, però se a te ti vuole fare la bernacchia, tu non puoi fare nulla. Non hai capito, Roberto, non hai capito. Guarda, te lo dico piano piano, forse. Allora, se io sto parlando con Antonio, ok? Sto parlando, no? Tu ti metti a fare tra tra tra tra tra, se io so che sei tu, io vado ti denuncio, ma non hai carabinieri, i carabinieri non vuoi stare in nulla, e non con la polizia postale, se tu mi stai disturbando l'interlocutore, che è un affanculo, con quello che sto parlando praticamente, tu non lo puoi fare, se io scopro che sei tu, passi un bel casino. Luca, vabbè, tu devi fare una denuncia, però non la puoi fare al nome così inventato, devi sapere che esattamente quella persona lì, e come ti fai a dimostrare che è lui? Dimmelo, se c'è un modo di dimostrarlo. Non è così, no, ti dimmi. No, non è così, ma ti dici tu, Robert, già si trova. Dicevo, sono sicuro, già si trova, fidati. Oh, è troppo vaga la questione, no? Perché io ti posso pigliare in giro quanto voglio, piglio un altro baracchino, tu adesso mi ascolti sempre con questo segnale, ti metto un altro baracchino che c'è con due watt anziché con cinque, ti uso un altro tipo di microfono e tu dici, mi questo sta venendo dalla teologia, sta venendo da lì, come fa a dimostrarlo? Non è così, se non parlo naturalmente. Beh, ci sono tanti metodi, Robert, tanti metodi, non ti posso dire, tu stai disturbando, sempre di continuo, io parlo tanto tu disturbi. Papa di telefonati, va, passa così. Claudio, poni in moto. Fra, poni in moto. Si fa un giretto. Come vai, no? E gai, Cosu. Non è Roberto, è Natalino. Vedi, tu dici, vieni sotto casa mia, vedi, questo Roberto stacchi il piede, dice lui, perché il segnale è troppo forte. E beh, e tu che sei per fare questa cosa qua? Cosa sei lei scomposto che mi può fare questi controlli? C'è una cosa sicura, però. Non è che vai così a caso, per dire c'è importante Claudio, c'è importante il bar di Natalino, no? Quando si è sicuri, ci vuole tutti d'accordo, ma passa così, se eravamo in 5-6 in macchina per dire, no? E secondo noi è lui che ci stava disturbando, e tu passi un po' di casino. Dipende da cosa intendi per disturbo, io quello lì che voglio dire, cioè se tu vuoi vedere... Faccio un po' di lui, perché divino. Cosa ne c'è? Tu mi puoi querelare perché ti sto offendendo, però se io mando la portante, ci si disturba a questo canale 10, fate un altro canale, cosa vuoi dare? Hai capito, Roma, se io sto parlando con cosa, con Antonio che è più basso di te, che mi arriva più basso di te, e io so che sei tu che mi stai disturbando Antonio, io ti faccio passare i casini a te, faccio non hai compreso. Sì che ho capito quello che stai dicendo tu, però è in base a che cosa me li fai passare, cioè cosa fai tu? Fai la denuncia, dicemi, Roberto, quando sto parlando con Antonio mi manda la portata e non mi fa parlare, e beh, è una giustizia, no? Non riesco a capire cosa mi possano fare a me. No, ti fanno l'applauso, Roberto, guarda, ti fanno l'applauso. Io sono convinto che non mi voleva nulla, se io mando la portante, loro ti dicono, tieni fila, lo sai cosa mi ha detto quello di stamattina per farti un esempio? Ecco, quelli che hanno i microfoni preamplificati, molte volte sblatterano, perché tu sei sul 10 e sull'11 ti senti di sblatter, 12 eccetera. Dice, ti vai della bernacchia, te la tengo la bernacchia, non puoi farci niente. Pennocchia. Ma io sto dicendo quello che... come stanno le cose. Non puoi... non puoi camuffare la voce, ehi vieni giù Roberto, faccio la fotocopia e poi te lo leggi bene, e poi mi do la ripulsa, non faccio che sia cambiato qualcosa, da 10 anni, 12 anni fa adesso. No, ma allora, io ti sono le leggi del cui tu vivere, si chiamano delle regole non scritte che vanno rispettate, come ti candovate in un posto pubblico, non è che ti imponi a fare certe cose, ci sono regole non scritte del carattere, eccetera, eccetera, quello sono pienamente d'accordo. Però se io ti dico, io a Luca non lo sento, io sto mandando a portate e sto provando l'apparato perché lo voglio provare, e chi te lo vieta lui? Cazzo! Non siamo capiti, se c'è una cosa che c'è un'altra, ecco perché non riusciamo a capirti, Robè. Io ti sto dicendo, se sto parlando con Antonio, ok? E tu me lo disturbi perché sei più forte, lo fai apposta a di me, poi c'è la portante, e so che sei tu, io ti faccio passare i casini a te. E mi fai la denuncia, io quando vengo a denunciarmi mi dico, tale giorno, a tale ora. Ho fatto i costruiti, non c'era a casa, mettiamo quella a casa, sì, ero io, stavo provando un microfono nuovo, un apparato nuovo, stavo facendo delle prove, per vedere, e tu cosa? No, non ti facevo parlare, io Antonio non lo sentivo, oppure lo sentivo, però le prove a me non me lo vede nessuno di farle. Cazzo, Robè, alziamo i bigliami, ti sto dicendo, Antonio, tu lo senti? Come io per esempio sto parlando con, tu stai parlando con Claudio, no? Ok, io ti disturbo, Claudio sa che sono io, e sono io, lui mi può fare qualcosa a me. Break. Ah, buonasera a tutti, doppio room. Già parlare col muro. Hai capito? Non siamo capiti, allora Robè, te lo dico subito, così facciamo, ciao Gianni, ben sentito. E poi ti arrivano gli altri, allora sto dicendo io, signor, tu lo senti, tu lo senti, io sto parlando con Antonio, tu me lo disturbi, e sono sicuro che sei tu, ora ti denuncio a te, e faccio come di casini, avanti Gianni. Ehi là, stavo ascoltando il discorso, e diciamo che Roberto non ha ragione, perché se uno vuole provare l'apparecchio vede che ci siete sta parlando, se ne va in un altro canale a provarlo, non si deve mettere a disturbare chi c'è sul canale, quello è normale. Ma è anche la stessa cosa, se Roberto non mi sente, non sente l'altro, però a me non mi può disturbare, cosa si mette qua a provare? Ci sono altri 20-25 canali che puoi fare le prove. È quello Robè, anche è vero, è quello. Vabbè, dai, ce lo monopolizziamo qua. Comunque già c'è Roberto, Natalino, Claudio in stand by, Pierpaolo e Antonio, vai tu. Sì, stavo ascoltando il discorso. Comunque, quello per esempio che si ascolta Alghero e gli risponde tutto quanto è una grandissima stronzata. Perché io se lo sento, mi arriva il segnale buono e tutto, io ci parlo, e come? Ho capito, Quello che hai detto tu poco fa, che non ci può parlare con Alghero, dove sta scritto questo? Ma scusa, sono una bella cittadina, cosa significa? Non c'entra niente, se io lo sento, è che un camionista ha un bel di voce, non è lontano, eppure se io lo sento le rispondo. Non credo di fare niente. Anto, allora che quando ci sono di ex senti la gente spagnola ci puoi parlare. Perché non si può parlare? Che discorso state facendo? No, è vietato, Robè, tu sei nato da poco, ma chi è vecchio lo sa, è vietato parlare e fare di ex. È così, ciao Gianni, è così. Vi ripeto e ribadisco che da 20 anni a questa parte abbiamo sempre fatto quello che abbiamo voluto. Ogni città, ogni paese è abilitata a usare la radio nell'arco dei chilometri consentiti alla legge, vale a dire in città. Il fatto che tu Antonio senti ad Alghero le rispondi per educazione, come loro rispondono a te. Però la legge, la prima legge che è uscita, quindi quella quando hanno dato le concessioni, adesso non mi ricordo in che anno, credo che sia uscita nel 72-73, la prima concessione, il disciplinare parlava di banda cittadina, quindi tu puoi parlare con quelli della tua città o quelli del tuo paese, non puoi uscire fuori dalla tua città e fuori dal tuo paese. Oggi ognuno fa quello che vuole, però la legge è quella lì. Poi Robè, basta sapere che cosa vuol dire CB, CB che cosa vuol dire? Adesso ti rispondo io a tutti e due. City band, roba vuol dire. Oh, mi fate parlare un attimo. In italiano vuol dire città in banda, vai Roberto. Allora, è la cosa, la traduzione citizen band di inglese, CB vuol dire la traduzione inglese di banda cittadina. Adesso ti faccio un esempio, Sassari, quanti abitanti c'hai, quanti chilometri quadri è la superficie di Sassari? 150.000 abitanti. E New York quanti abitanti c'ha? Io abito a Sassari, non a New York. New York sarà 100 volte Sassari, è sempre banda cittadina, per cui tutto questo discorso di Alghero, di cose, non c'entra nulla, sono solo cose che state dicendo voi. È vicino ai limiti della distanza che arriva il segnale, cosa metto a banda cittadina? Banda cittadina è stata detta così genericamente, però finché dove riesci a sentire o a parlare è considerato banda cittadina, cosa vuol dire? Trasmettere solo a Sassari, non puoi far vedere con Usino che ha 3 km con Sorso. Guarda che quando sono entrato io in frequenza, che a Sassari c'erano, anzi io parlavo al produttore se c'erano 10 gatti, e non era consentita neanche un'onda intera, quindi era consentita un quarto d'onda, come antenna. Poi, nonostante non ci sia mai stata nessuna modifica su quel decreto legge delle antenne un quarto d'onda, sono uscite le 5 ottavi e tutti abbiamo comprato le 5 ottavi. Ok, inizialmente a un quarto d'onda era concesso il dipolo, quando sono entrato lì. Poi sono uscite le mini Grand Prix, le Grand Prix, le Standarter, le Bastandarter e così via, capito? E il fatto che stai dicendo tu che non esiste la banda cittadina, ti faccio leggere anche quel decreto legge, perché c'è un decreto legge dove parla di banda cittadina, né City Band, né New York, né New York City, né Brasile, parla di banda cittadina, quindi nell'arco della città, a chilometraggio limitato, chi ti sente, chi ti sente, e chi non ti sente ci mette le cuffie. Quello che sto dicendo. No, ma c'è anche un'altra cosa, che noi siamo tollerati. Questa frequenza, tu stai parlando di New York, la frequenza era loro e parlano dove cazzo vogliono, noi siamo tollerati. I 5 watt perché te l'hanno imposto, per quel motivo lì, per non disturbare a loro. Esatto, Natalino, anche quello c'è. Allora, mi sono capito, allora, chi è il paesino più piccolino che abbiamo vicino a Sassari? Vabbè, Natalino dice, a te la building come devo chiamare? Eccoci! Allora, c'è il paese che ha 200 abitanti, c'è un'estensione di cose, allora non posso farmi dare a Usini, non posso uscire fuori di Usini, avvidente. Mentre a Cagliari che ha 200.000 abitanti, posso parlare anche di 30 km. Ma che discorsi sono? Tu parli sì che dove riesci ad arrivare. Oggi è così, come ti ha detto Natalino, c'è una tolleranza zero, ma negli anni passati, negli anni che è entrato Gianni, Natalino, forse prima io di loro, non lo so, comunque negli anni che ho iniziato a modulare, nel 73, la tolleranza era zero, cioè nel senso che determinate cose non si potevano fare, e con questo che tra città e paese c'era tanta di quella geologia che non veniva bene a dirlo, capito? E Gianni questo dovrebbe ricordarselo, cosa c'era di casini tra e Sassari quando accendevamo le radio, perché c'era un macello di Gesù Cristo, ma era sempre a tolleranza zero, cioè chi riusciva a parlare parlava, chi non riusciva a parlare parla zitto. Oggi come oggi, che i decreti legge non hanno avuto nessuna variante, non c'è stato nessun nuovo disciplinare, e la 27 è rimasta, con rispetto per tutti, l'unica frequenza da proprio, che al Ministero non era tutti proprio nulla, come hai detto tu, cioè non c'è nessuno soprattutto dove è di protezione, non ci sono soprattutto i primari, i secondari, ognuno va di 10 miliardi, sino a quando te lo fanno fare. Ma il discorso è che ha detto Luca, tu a me non mi disturbi, a me, perché se io so che sei tu che mi stai disturbando, io non ti dico niente, non ti dico proprio assolutamente niente, vado alla competenza e ti faccio nome, cognome, denuncia, canale, contatto, registrazione, e tutto, vengono e ti sequestrano tutto, perché tu a me non mi puoi disturbare, in nessun senso, né mettendomi la portante, né facendomi rutti, né sovramodulandomi, né facendomi entrare, perché la legge dice che se io brecco e tu non mi fai entrare, sei passibile di contravvenzione, perché tu, io pago la concessione, come te tu mi devi far modulare, anche se io ho un'antenna interna, l'importante è che tu mi senti, se non mi senti allora è un altro discorso, questo dice la legge, o diceva la legge prima. Altre modifiche non ce ne sono state, quindi tutto quello che è stato letto dal 1973 a oggi è validissimo, non cambia assolutamente niente. Roberto, allora io non ti faccio nulla, però c'è stato un amico che un anno ha fatto un DX, non mi ricordo se era Spagna, Francia, e ha passato le coordinate all'apparato. C'è al posto della cartolina delle, diciamo, delle curve di cosa abbiamo fatto. Senza radio. Da Roma, di adesso posto in Roma, una multa perché lui non poteva fare il DX. Infatti hanno sovrammodulato, non so chi sia, però Gianni ti sento troppo basso. Prova adesso. Adesso è un po' meglio, però ti hanno passato. Vabbè, io ho detto che c'è stato un amico che ha fatto un DX una volta, gli ha passato le coordinate all'altro interlocutore e invece che arrivare la cartolina QSL è arrivata la multa alle scomposte di Roma. Ecco cosa stava uscendo, non facciamo discorsi igienici, se in tu c'è l'apparato omologato io posso far vedere pure con l'America, nessuno mi vieta niente, ma che discorsi stiamo facendo? No, si possono fare DX, Roberto, cazzo, mi sembra una campana proprio, non si possono fare, informati, non si possono fare, tu non puoi mandare il tuo indirizzo tramite monachino, non si possono fare, Roberto, non si possono fare. Io non so parlare di diritto, io posso parlare con grande piacere finché dove mi ascoltano, non c'è scritto da nessuna parte e portatemi la legge a leggerla se ce l'avete, che non per fare diretto. Vabbè. È un vecchio comunque. Saluto i signori con una buona sera, ma almeno da questa parte. Gli si può parlare sulle città, è uno che c'è il camion, che c'è il cipico, ma fa. Avete sentito la Palmiglia? Sì, yeah. Avete sentito la domanda di Palmiglia? Certo che l'abbiamo sentito. Parla nella città in cui è, perché c'è il camion, si sa benissimo che usa anche apparati che non si possono usare, che usa lineari, che usa questo, che usa l'altro. Ci sono tante cose che non si possono fare, si fanno lo stesso. Già, adesso non diciamo cose che non c'entrano niente col discorso. Uno c'ha un apparato mobile in movimento, fa vedere dove riesce a farsi sentire, ma che discorsi stiamo facendo? Adesso stiamo facendo un sacco di fesserie. Vabbè, non sono fesserie, noi siamo abusivi in questa frequenza perché è una frequenza militare americana, noi siamo tollerati, capito? Ecco perché ti dicono di usare 5 watt, di parlare su un'entità, per quel motivo, perché questa frequenza è americana, non è nostra. Yes, yes. Hai ragione, ti esibisce neanche tu fesserie. Allora, la frequenza concessa dalla comunità delle comunicazioni internazionali in tutto il mondo, utilizza, naturalmente sono nazioni che aderiscono con altre frequenze, tu puoi parlare dove ti piace, nei canali, nei 40 canali, rispettando i limiti di potenza dei 4 watt o 5 watt. Che siano, ci sono certe nazioni ne hanno anche di meno, se ti ascoltano anche in Sud America o in Australia, nessuno te lo vieta. Puoi parlare con gatti bianchi. Sta dicendo cose che non esistono. E vabbè, lo dici tu che non esistono, io dico che gli ex non si possono fare. Poi, a un amico gli è arrivata una bella multa grossa dal centro ascolto di Roma, solo perché stava parlando col Brasile, capito? Ma Natalia, se tu ti attacchi un lineare, mi pongo, non lo so, una cosa che non devo utilizzare, a quel punto un altro discorso, stiamo parlando di apparati omologati, con potenze entro i limiti di legge, se tu parli con qualcosa di positivo a Francia e ti rispondono nessuno ti può vietare niente, e portami la legge e me la fai leggere, se me la porti e me la fai leggere a quel punto ti do ragione, non esiste una legge che dica una cosa del genere, e non può mai esistere una cosa del genere. È un controsenso, ma ti pare che ti dico una cosa del genere? L'importante è che tu rispetti i limiti di legge. Prima c'erano le concessioni dove c'erano scritte le leggi, e probabilmente lì c'è anche scritto, adesso non ricordo, però io avevo la concessione vecchia dove c'era proprio tutto disciplinare. Gianni, tu allora ti le leggi, allora la legge del 73, voi state parlando di leggi di 50 anni fa, e usciti, ci sono usciti nel 2003 e anche nel 2005, perché li sto studiando, sono cambiate un sacco di cose, di leggi sono cambiate, ci sono stati degli aggiornamenti ed hanno abrogato una marea di articoli che quasi, io non ho mai sentito che no, non puoi fare diversi, questo me lo state dicendo voi, Io ne ho letto tanti di libri, sono libri su baracchini e cose del genere, proprio sulla banda cittadina, e non c'è scritto da nessuna parte. Mi chiedo se vuoi, addirittura ci sono i contest, fanno i collegamenti, e tu mi dici che non si può, ma basta scherzare. Quali contest stai parlando, Robè? Quali contest stai parlando? Cosa ci leggete? Un giornale di un libro di Paperino o un libro di elettronica? Quali contest stai parlando? I contest sono solo, esclusivamente, in bande amatoriali. E ha ragione Gianni, tu collegamenti al di fuori della tua città non le puoi fare. Perché nel disciplinare che ho io della concessione del 73, che tu parli del 73, ti ho detto c'è l'articolo 32, poi c'è l'articolo 26 che parla proprio di queste cose. E ti dice non puoi fare collegamenti, tu parli con chi ti piace sino a dove ti ascoltano e nessuno te lo può vietare, perché tu stai rispettando i limiti di potere. Se tu con 5 watt riesci ad arrivare in America, chi te lo può vietare? Voi state confondendo altre cose. I bacini in ascolto sono per altri tipi di frequenze e per altri usi, non per la banda cittadina. E questo te lo dico con certezza, Claudio. I bacini di ascolto si chiamano, non sono per le bande amatoriali né per le bande cittadine, sono per altri tipi di discorsi, per le stazioni broadcasting. Lì ci sono i punti ripetitori e ci sono i bacini d'ascolto, si chiama, in base agli abitanti, alla zona, all'altezza del coso. Tu non puoi andare oltre quei limiti, perché se no interferisci su altre frequenze di altri punti ripetitori. Stiamo confondendo le stazioni broadcasting con le stazioni amatoriali o cittadine. Vabbè, lascia stare le stazioni broadcast e le stazioni amatoriali. Qua stiamo parlando di 27 MHz, non dica a me queste cose che io ho le palle piene di leggerle e di studiarle. Lascia perdere le bande amatoriali, che qua non c'entrano nulla. Le bande amatoriali sono bande amatoriali con uso di HF a sintonia continua, quindi ci sono le bande 10, 20, 40, 80 e 160 più le VARC. Ok? Qua stiamo parlando di 11 metri, frequenza 27, banda cittadina dal canale 1 al canale 40. Stiamo parlando di quartato, di canali e boh, non parlare di altro. Gianni ti ha detto che c'è una legge che dice che tu non puoi fare nessun collegamento in banda cittadina al di fuori della tua città, ed è assolutamente vero, punto. Aspetta, quando è, Roberto, da quando è che si può utilizzare la direttiva? Da quando? Allora, questo qua me l'ha detto questo tipo, io non lo sapevo, non si poteva utilizzare. E te già lo già l'hai detto a Caglia. La legge del 73, potevi utilizzare soltanto un'antenna da un quarto d'onda. Successivamente, visto che erano in commercio, le hanno sempre utilizzate, hanno permesso di utilizzare anche le 50, vi ripeto, anche la direttiva, e si possono usare anche antenne direttive. L'importante, sai, entro i limiti di potenza. Ma qua dice, aspetta, non vedo una mazza. Allora qua dice, le antenne non possono essere di tipo direttivo, devono essere collegate all'uscita del trasmettitore senza interposizioni di apparecchiature o di altri dispositivi. I dispositivi sono gli strumenti, attenzione, manco lo strumento puoi tenere, misure le stazionali e lo stacchi. Infatti, sì, aspetta, stavo leggendo. Altri dispositivi, fa l'eccezione per i dispositivi destinati al contenimento delle emissioni non essenziali irradianti dal trasmettitore e per gli strumenti di misura. Ah, Luca. Ehi, dimmi. Allora, quella cosa che stai leggendo tu è molto vecchia, io ti sto dicendo, ci sono state delle leggi nel 2003 e poi un aggiornamento quando hanno unificato le patenti nel 2005 nella... Non c'è nulla di scritto. Hanno cambiato un sacco di cose, io ci dico, tu adesso qua non ce l'ho sotto mano perché ce l'ho da un'altra parte, non le voglio, se no ve le faccio. Ci sono stati un sacco di cambiamenti, hanno messo l'articolo numero 32 della legge del mio abrogato, ce ne sono minimo una cinquantina di articoli di legge abrogati, tra cui questo delle antenne che non si può usare le antenne a un quarto della onda, è stato abrogato e non indica più che tipo di antenne per utilizzare, non ne parla più di antenne. Parla antenne verticali di non direttive, qualsiasi tipo di antenna verticale non direttiva, Robè. Domani te lo faccio leggere, ma in gazzetta ufficiale non c'è assolutamente niente. Fate girare, c'è anche Antonio, forse Pierpaolo voleva dire qualcosa. Io quell'articolo che stai dicendo tu l'ho letto anche io, però è stato abrogato. Non ce l'ho io come certezza che è stato abrogato. Io poc'anzi chiamato un amico e mi ha detto sono solo stronzate, le leggi che erano in vigore dal 73 al 2003 sono ancora in vigore dal 2003 al 2008, noi non abbiamo nessuna modifica, pertanto fino a quando non ci danno uno statuto nuovo oppure una gazzetta ufficiale nuova dove ci sono i decreti nuovi dal 2003 al 2008, allora vuol dire entrano in vigore quelle leggi. Per il momento le stiamo attuando ancora le leggi vecchie e basta, non mi ha detto altro. Pierpaolo, riprendi. C'era Domenico comunque, Fuga. Comunque, Claudio, tornando al discorso della CB, e come fanno quelli che hanno un apparato portatile che stanno camminando in macchina? Come si fa a utilizzarlo in città? Spiegamelo, se stanno camminando. C'è l'uso portatile, perché io quante volte tu senti, passiamo adesso alla categoria radioamatori, un radioamatore in macchina parlando in VHF, in UHF che dice la sigla, è obbligatorio dire la mia sigla per esempio mobile portatile, allora lo devo dire, in modo che chi ascolta sa che io sono in movimento, la stessa cosa che fai tu, capito? Quando noi siamo in macchina o qualcuno di voi è in macchina col baracchino, lo dice, sono in macchina, sono barato mobile, e allora qual è il problema? No, non mi sono spiegato, tu quello che stavate dicendo voi, che puoi utilizzarlo solo in base alla città di una società, e se sono in un deserto, nel deserto del Sahara, ma fa un esempio, non c'è una città dell'acqua di 200 km, io sto parlando col baracchino, non so come che è città, per cui è un controsenso quello che state dicendo voi, io posso parlare finché mi ascoltano e non mi riesco a ricevere, e sono in movimento, dico che sono in barra mobile, come dici tu, tutto quello che vuoi, però non sono in città, io sono alla 131 che sta andando a Cagliari, sto chiamando se mi ascolta qualche lui. No. E che discorso è questo? Un discorso della banda città. Sto utilizzando le frequenze della banda cittadina, però sono in movimento, per cui non è detto che io devo utilizzarlo per forza dentro stazione fissa all'interno della città. L'interno della città è blu, vabbè, punto. Poi, se tu sei nel deserto del Sahara, vuol dire che ci saranno altre leggi. In Italia sussistono queste le leggi. Noi siamo cose, allora un camionista non può utilizzare il baracchino in camion, secondo Luca Buddutti. No, lo può usare, va a Sorso e parla con quelli di Sorso, cazzo va a Sennori e parla con quelli di Sennori, capito? Ma non gli può far vedere da Zena la tassa, mio. E chi te l'ha detto? Però ma cosa stiamo dicendo? Adesso stiamo facendo proprio grosse fesserie, ma lasciamo perdere. Tu puoi parlare con gatti biardi finché non vi arriva il segnale e finché riesci ad ascoltare. Entro i limiti di legge, solo questo ti dice. No, è guys, conta. Dicono banda cittadina e vuol dire entro i limiti della città, dove tu ti trovi. Al di fuori non puoi parlare. I diecchi sono proibitissimi, addirittura. Vabbè, l'uso mobile delle radio, qualsiasi tipo di radio, ha un'altra funzione, attento, Se noi parliamo di stazione fissa, la legge ti consente l'apparato di stazione fissa, questa cosa che poi abbiamo messo in macchina non è stata ancora valutata da nessuno, capito? Cioè con la stessa concessione che tu hai per casa tua, puoi usare il baracchino in macchina, ma è una cosa che abbiamo fatto dopo, che nessuno ha messo a statuto, nessuno ha rotto le palle, nessuno ha detto niente. Quindi l'uso dell'apparato mobile, quindi in macchina, per capirci, è un diverso uso di quello che tu ne fai da casa tua, per capirci bene. Ci siamo intesi? No, forse stiamo parlando di cose. Io ti sto dicendo che il discorso della banda cittadina, quello che state dicendo voi, che la può utilizzare solo in banda cittadina, all'interno di banda cittadina, all'interno della città, non è vero, tu lo puoi utilizzare in tutti i piazzi, il baracchino, lo puoi utilizzare in mezzo mobile, in mezzo portatile a mano, puoi camminare per le strade col baracchino portatile, puoi andare in stazione fissa, nessuno trova. L'importante è rispetti la legge, entro quelle frequenze lì in quei canali, in banda cittadina sono canalizzati e basta, e con quelli che ti potete, e nessuno trova. Se poi tu riesci a parlare con un VAT e ti colleghi con Parigi, nessuno te lo vieta, non c'è scritto da nessuna parte che tu non puoi parlare con Parigi perché ti riescono a sentire perché in quel momento c'è una propagazione favorevole, non c'è scritto da nessuna parte. Scritto è severamente vietato fare collegamenti a lunga distanza, e cioè IDX. Capito? Ah, Natali, se tu sei convinto di quello fammi leggi la legge, e così me lo confermi, a parole non significa niente. Vabbè, ti chiede la QSL, cioè ti dice me la affisci la cattura, tu che indirizzo le dai? Io per me personalmente non le do mai di indirizzo. non ne do come ti dico, qualche semolo là, io non ne do perché andare a causa su Mande Cittadino non ne dai, perché se una diamante è un altro discorso, io sono cittadina, non so il cognome, non ne do a nessuno, perché c'è troppa gente che ascolta e potete avere anche qualche problema, nel senso non è detto che tu in quel momento stai uscendo pulito come dovresti uscire. Aspetta che risponda Gianni, anche il P.O. Box vede all'indirizzo, non è che... quindi non cambia niente. Ecco perché i radioamatori lavorano via Bureau, quindi via Bureau si intende via associazione, nel senso che tu le dai il nome attivo e poi fa tutto l'associazione ARI, quindi via Bureau c'è il QSL manager dove fa tutto lui e nessuno sa dove abiti, dove non abiti e tutto. Ma è così, vabbè, è così, a tutti ti dico così, è così. Poi ti volevo dire un'altra cosa, poi non intervengo più perché mi è raro a cliccare. C'è un'altra cosa che ti volevo dire, che ti stava dicendo Natalino, che però non l'hai fatto finire. Ah, il fatto della nuova concessione, non so se c'è qualcuno di voi che l'ha fatta nuova, eccetera. Se tu guardi, ti ha legato alla concessione che ti chiedono, sino a qualche anno fa era così, praticamente c'è un quadretto dove tu devi indicare lo spostamento delle radio, capito? Forse Gianni l'ha fatta una cosa del genere, o sbaglio Gianni? Non c'è più Claudio. Io ho messo praticamente in macchina, uso questo tipo di apparecchio, a casa questo apparecchio. Tutti gli apparati che vuoi. Certo, vabbè, che poi detenere tutti gli apparati che vuoi va bene, ma quella causa che ha messo Gianni, vuol dire che la voglio, l'ho voluta anche per noi. Quando io ho fatto ad esempio il cambio di stazione da poco, un anno fa, un anno e mezzo fa, ho dovuto inserire tutte le apparecchiature che ho, marca e tipo, hai capito? Senza fare nessuna denuncia, però c'era una clausola dove diceva che tipo di apparecchiature avevo, le ho messe tutte, le hanno volute, perché cosa le vogliono così, per belletta? Radio, ce l'ho sotto mano, lo sai, c'è scritto nella mia, c'è scritto di detenere, dichiara di detenere, e ci sono le crocette, apparato, mobile, fisso o portatile, metti le crocette che c'è scritto, mettere le crocette che interessano, se tu hai tre tipi di apparati, indichi tutti e tre tipi, se ne hai solo mobile o solo fissi, indichi quello che ti interessa, non è più come prima, è cambiato. Vabbè, siamo già andati avanti, signore, io vi saluto, questo è molto interessante, molto istruttivo, non sono tanto molto. Adesso spengo anche il computer, mi tengo. Ciao a tutti, buonanotte, buon proseguo di questione. C'era Pierpaolo e Antonio, io le lancio per Antonio, mi trovo Pierpaolo, non ha ripreso. Avanti Antonio, riprendi tu, buonanotte a tutti. Ma buonanotte, grazie, ci sentiamo alle prossime. Avanti già. Ciao. Vabbè, io dico questo. Io mi avvalgo che... Ciao, bravo. Se non ho cambiato questo punto lo so, però non mi risulta che non si possa modulare al pieno il paese. Ma sentite? Non so se ma mi senti Luca? Luca mi senti? Diciamo che non lo faccio bene, che forse si può modulare, però una cittadina non si possono, io sapevo che non si potevano fare gli ex, poi se si può modulare con i paesi vicino questo non te lo so dire, però i DX erano proibiti, tanto è vero che a questo amico che anche Natalino conosce gli hanno fatto la butta a casa. Oh già, vediamo cosa stava facendo, vabbè dai, concludo io qua il discorso, vi saluto di nuovo, ciao Claudio, per me è già tardi lo stesso, buona giornata per domani a tutti, ciao Gianni, Claudio, Luca, Pierpaolo, Antonio, Natalino e tutti gli amici, dai, ci sentiamo alle prossime, magari ne parliamo un altro momento con calma, dai, ciao ciao a tutti, buon proseguo. Ciao, ciao Roberto, ciao Claudio, buona. A Gianni l'avete castigata che scendeva sul radio, Gianni sei basso. Vabbè, costringete ad attaccare il microfono. Attacca tutto. Avvicinatelo al microfono, molte volte non ti si sente. Vabbè, in macchina, vai, diverso, perché sai com'è, no, è un... ti vedo un po' male. Mi scacciappa e ti guardi una multa e domanda di te. Però ho notato che tu a casa te lo metti vicino alla bocca e ti si vede e si sente tranquillamente. Questi Gianni sono sposta alla bocca. sente di nuovo alta. Anche questo se io me lo sposto si sente basso, c'è poco da fare. In macchina viene male, molte volte io sono abituato. Magari questo qui anche se me lo spostavo, no, me lo faceva quel discorso, se lo scusi. Forse col microfono della Midland che è una cavolata. Purtroppo un microfono normale si deve mettere vicino alla bocca perché altrimenti è un casino. E se un giro con questo volume, la teffara, un casino, non è un casino. Avanti, vediamo un po' Gianni, poi fai riprendersi, c'è Pierpaolo, poi vai. Beh, adesso me lo metto vicino alla bocca, avanti, vediamo un po' che tiro su 7000. Vai, andare. Va bene. No, questo qui quando ce l'avevo in macchina, questo qui, anche se parlava lontano, mi si sentiva. Invece quello della Midland deve essere difficile il microfono. Come se la allontani poco a poco non si sente nulla più. E tu che microfono usavi in macchina? Questo che sto usando adesso. Non è la Midland. Come fa a essere Midland se intecchi l'apparecchio? Non l'ho compreso, eh. Io perché la 48 prima ci avevo. Servo questo l'apparecchio in macchina, no? Ah, no, ma tu l'ho detto prima, ho detto quello che usavo in macchina. Ma bura, comunque, adesso penso che mi sentiate un po' mito, Ciao! Che si può avanti? Allora, sono andato in internet a vedere queste cose. Radio Amatori e CB d'Italia dice così che si possono usare delle antenne veicolari quale la portata può essere da 5 a 10 km con quelli fissi, cioè a casa, con antenne a largo guadagno si può arrivare a fare delle comunicazioni molto più in là. Addirittura in certe condizioni si possono effettuare delle comunicazioni anche internazionali. Sì, si possono, però non è detto che siano concesse. Che è diverso. Se lì è che non si sa mai Bruzi va o Piazza. Ma quello ti spiega cosa può fare l'antenna. Io te lo dico come c'è scritto. Sono concesse anche comunicazioni internazionali. No, la gazzetta ufficiale ci vuole. Perché se no loro applicano sempre le leggi vecchie. All'amico mio è arrivato 1.200.000 lire di multa. Solo perché ha parlato fuori. Ma quando, in che anno questo? Vai a trovare una sulla gazzetta ufficiale, per esempio, quando è stata portata la modifica nel 2003, che non servono più le concessioni, ma basta pagare il canone e basta. Prova a vedere se non trovi, vai sulla gazzetta ufficiale, aiuto. Ecco, adesso è così. È il regolamento delle poste telecomunicazioni quello mio, non è una cavolata. Adesso è così. Ecco, se tu vai a vedere anche nel sito delle poste telecomunicazioni, ci trovi la legge del 2003 al quale sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo. Al decreto legislativo parliamo, e quale decreto legislativo non parla assolutamente né lunghezza, di chilometri, di portata e né di niente. Gli apparecchi devono essere, questo lo so, l'ho appena letto io dal computer, per quello non ho risposto, devono essere 4 watt omologati. Le antenne possono essere di qualsiasi tipo, quello che vuoi tu. L'importante è che siano consentite e non che creino disturbo a nessuno. Disturbo significa che non puoi disturbare né le comunicazioni degli altri, né reti televisive e né quant'altro né radio elettrico. Ci sia un decreto legislativo che ne fa, cioè che ci sono anche delle leggi per quello, no? Allora, non parla assolutamente né di quanto l'ha portata, né di quanto è armata la cittadina. Comunque quella c'è l'altra volta anche tu Natale con questa cosa che è una banda americana. Fu anche quella, fino al 1979, poi è stata dismessa, l'ho letto anche nella storia della banda. Stato fa le sue leggi, capito? Però a noi non era consentito prima fare né di ex né tutte queste cose qua. Bisogna avere il decreto di legge con tutte le modifiche che sono state apportate adesso. Ecco, le sono state apportate alcune nel 2003, il quale proprio la prima disciplina è che non ci sono più le vecchie concessioni, non ci sono più alcune cose, e tra il quale questa non esiste neanche quello che avete detto voi poco fa, che io sono andato a cercare, non esiste neanche nessun decreto legislativo, né prima e né dopo né prima il 2003 e né dopo il 2003, il quale disciplina la portata di quanto deve essere. Perché addirittura qua, anche addirittura sul sito del Radio Amatori CB Italia, dice chiaramente che si possono usare addirittura con antenne a larga banda nelle cose, nelle comunicazioni internazionali, non si possono, puoi usarle, ecco, non è che per dire le usiamo e non fa niente, no, puoi usarle anche fuori, non dice nessun decreto legislativo che vieta quello lì, niente, io le ho ascoltate tutte quante, le guardate tutte, le ho cercate, non c'è nessuno che ti vieta di uscire fuori dall'ambito cittadino. Lo faccio vedere io quando ci vediamo, Pierpaolo. Comunque c'è scritto nel sito del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, nell'aggiornamento, se tu vai nel sito, non andare a Radio Amatori Italia che non serve a nulla, vai nel sito del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e leggi la parte disciplinare, c'è scritto, disciplinare e modo d'uso, guarda quella parte lì, leggi a vedere che antenne ti danno in dotazione d'uso e qual è il nuovo disciplinare adottato da allora sino a oggi, quindi come ho detto io, non c'è nessun decreto legge che ti impone quelle cose, però quelle che erano prima sono rimaste attuali, quindi le direttive non si possono usare e le radio devono essere sempre quelle attualmente, così dice. Proprio su quello che hai detto tu sulle poste e telecomunicazioni, non esiste un decreto legge il quale parla di antenne e mezzo antenne, non ne parla proprio di antenne, non ce n'è che tipo di antenna puoi usare, che tipo non puoi usare, non ve ne è proprio nelle poste e telecomunicazioni, non ve ne è. C'è scritto solo le poste e telecomunicazioni uguale come quello di Radio Amatori CB d'Italia, c'è scritto che puoi usare delle antenne. Secondo della portata chiaro, anche nelle comunicazioni intercontinentali, purché gli apparati riportino le caratteristiche del decreto legge, addirittura se tu lo guardi meglio, c'è scritto dell'8 agosto 2003, aggiornata all'8 agosto 2003. Come gli ho detto io a Roberto, cioè dal 73 al 2003 non è cambiato assolutamente niente, lui diceva che c'erano aggiornamenti dal 2003 in poi, non è assolutamente vero perché io l'ho letto, non c'è scritto niente, quindi rimangono quelle leggi che stai dicendo tu attuali, dove appunto l'uso delle apparecchiature devono essere omologate, in debole potenza, quindi 4 o 5 watt, ad uso internazionale come ti ha detto Natalino però. Ad uso internazionale, ma non è che è stato concesso l'uso internazionale di quel tipo di apparecchiature, bisogna stare attenti ai tranelli. Vabbè, comunque lo sto guardando anch'io, ma non vedo niente di particolare comunque. No, perché sono andato a guardare sui siti, se allora sono carogna anche i siti che mettono. Io non penso che le poste telecomunicazioni ti scrivono una cosa del genere. Io ripeto, le cose sulle antenne, il decreto legislativo sulle antenne che vieta un'antenna piuttosto che un'altra, non ce n'è. Qua non parla di antenne, parla di comunicazioni, purché si rispettino apparati veicolari sono quelli di stazione fissa, gli apparati portatili sono quelli portatili che tu tieni in mano, i veicolari sono quelli di stazione fissa, quindi il baracchino che stai usando tu è un baracchino veicolare, ok, per intenderci. Se non parla di antenne è normale che l'uso delle antenne verticali è rimasto a quello. Sono state sempre proibite le antenne ad uso direttivo per la banda cittadina. Quello non ci piove, vai tranquillo che non ci piove. L'uso delle antenne avevano messo in evidenza qualche anno fa che c'era un decreto legge che parlava di antenne un quarto d'onda, mentre invece non è stato passato quel decreto legge. E quindi le antenne si possono usare tutti i tipi di antenne verticali tranne che quelle direttive. Guarda, queste sono le direttive, non lo so e non te lo dico perché non ne parlo di direttive, no. Non c'è assolutamente niente sulle direttive. Per quanto riguarda le CB, non c'è niente che ne parla, quindi no, questo non lo so, non lo so, però le portate di antenne parla soltanto della portata degli apparati. Quanto riguarda le portate delle antenne, addirittura stabilisce che si possono fare delle comunicazioni intercomunitarie. Questo è quello che dico, che sto leggendo al computer, e poi se il Ministero ha sbagliato, io ti dico quello che ho scritto nel sito del Ministero, Danni. Ehi, allora, sotto la testa, scusate, sono andato a bere un bicchiere d'acqua. È un po' un interrogativo, per farti con la verità, perché io non sono aggiornato. Io mi stavo avvalendo delle leggi precedenti, poi che abbiano cambiato, questo non te lo so dire. Io non lo so se hanno cambiato o... Io leggo qua quello che c'è scritto nel Ministero e quello che però io lo sono andato in tutta la legislatura che c'era di amatori CB d'Italia. Riporta le stesse leggi, le stesse cose, perché sono andato a confrontare a vedere se parlava di queste cose, parlava di antenne, parlava di non antenne, parlava di portate, di quanto è una portata di un'antenna, non esiste, non c'è, non c'è una legge che vieti un'antenna piuttosto che un'altra, e quello io ho letto. Poi se il Ministero ha sbagliato, perdono, ho il mio computer magico, non lo so, io parlo di queste cose che c'è scritto. Se non fosse così, pazienza, io mi avvalgo di quello che c'è scritto lì, però e non penso che un Ministero metta una cosa per un'altra. Non è la prima volta che ci sono siti dove non sono aggiornati, per fare attenzione. Quello del Ministero? Sì, te lo posso dire con molta sicurezza, perché io qualche anno fa avevo letto appunto nel sito proprio del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, allora, adesso è Ministero delle Telecomunicazioni, quando era Poste e Telecomunicazioni, c'era un sito dove diceva appunto che per avere l'LPD portatile, io ti sto parlando di anni e anni fa, bisognava pagare una tassa di 12 euro. Come me hanno letto anche altri radioamatori, posso anche citarne uno qua a Sassari che a volte entra, ma, eccetera, abbiamo fatto il versamento di 12 euro. Quando abbiamo fatto il versamento di 12 euro ci è stato rimandato indietro con una lettera legata dicendo che non c'era bisogno di fare il versamento. Ecco perché te lo sto dicendo. Non so che dirti, allora, se non ci possiamo fidare neanche al sito ufficiale dei ministeri, allora a questo punto non so neanche più cosa dire. Io te lo dico così perché mi è successo, come ultimi aggiornamamenti del avvisalire a cose che interessavano anche le sessioni di esami, c'era un casino di Gesù Cristo. Io so a tutt'oggi che nella banda cittadina si possono utilizzare qualsiasi tipo di antenna verticale, di qualsiasi tipo, di qualsiasi grandezza, di qualsiasi cosa, basta che non sia direttiva. Questo è quello che risulta a me attualmente. Non ho nessuna variazione per quanto riguarda i decreti ministeriali attualmente in vigore, e quindi quello io ti dico, poi ognuno può fare quello che le piace. Sono entrato per salutarvi, dai, chiudo che è tardi. Ciao Gianni, ciao a tutti, buonanotte a tutti, grazie di questo. A te Gianni. Ciao, ciao, ciao, buonanotte. Avanti, bombolo. Ciao, ciao, ciao, ciao, buonanotte. Buonanotte, avanti. Voglio dire io, che si intende uno della riera, di risorso, è cosa, perché dove arrivo io parlo, me ne frega molto, e non credo che stia facendo niente di male. Come te tutti quanti, avanti. Però c'è quello, ci sono due cose, una è quella che vuoi fare, l'altra è quella che puoi fare. Ma secondo me è una grandissima scemenza. Non vedo perché non, se io lo sento non vedo perché non li devo parlare, questo è quello che penso, e poi da quanto so io non c'è scritto da nessuna parte. E sono le cartelle di un conto, la prima non si poteva, te lo assicuro, perché se dicevo questo amico ha spedito a questa L e mi è arrivata la musa dal centro di ascolto di Roma. Chiappa, sì sì, vabbè, quello lì è un'altra cosa, però a base io sto parlando di vicino, dai, non di chissà dove, io sto parlando di della zona di, per esempio, di Alghero, di Sorso e quelli lì. Non credo che sia carne. Yeah. Capito? Manto, non so cosa dirvi, perché arrivati a questo punto sarà cambiata la legge, questo non te lo so dire. Ti parlo delle leggi che c'erano precedentemente. Bisognerebbe sapere se le leggi sono cambiate veramente. Informati. Informati, perché io non ne ho letto da nessuna parte di quella cosa lì. Ma comunque sono il primo settore di Alghero che mi sento, lo saluto, non c'è problema. Ma perché è così che si deve fare, anche per educazione. Antonio, oggi tu non capisci la differenza. Se ci sono delle leggi, se ci sono delle leggi, bisogna pure rispettarle. Poi per l'educazione è un'altra cosa. E poi ognuno va a smontare i piatti, no? Noi stiamo parlando, io sto parlando in base a quello che ho letto su una cosa del Ministero, che c'è un sito del Ministero dove indica che addirittura si possono fare le trasmissioni intercontrattuali purché il baracchino sia omologato, che abbia le caratteristiche del decreto, parla di decreto ministeriale 8 agosto 2003, e basta. Poi tutte le altre cose non servono a niente, dire tutte le altre cose non servono a niente, questo c'è scritto lì. Se non prendiamo neanche per buono questo, non lo so, allora che dobbiamo chiedere? Se chiediamo alle persone del Ministero, non sono buone neanche quelle, perché si dice che ognuno dice quello che ti piace, di fare il piace. Chiediamo al sito ufficiale, non vanno bene lo stesso, allora va ragione Gianni. Uno va a smontare il bare piace, quando entra uno lo saluta, magari sia a New York. Cappa, sì, sì, ho capito benissimo, infatti, si fa così come si sta sempre facendo. Rumeni, dici? Danni? No, io sono sveglio, ma fai girare, non passando sempre a me il mic. C'è la Lucca, c'è la Natalino, fai girare a loro anche. Cappa, li prendi Lucca se ci sei. Bisogna vedere se le leggi hanno cambiato, se ci sono sempre le stesse, questo bisogna appurare, perché se non danno, se non metto sulla gazzetta ufficiale non c'è niente di ufficiale. Bisogna accertarsi bene, ma le leggi sono per forza cambiate, per forza, perché prima c'era un decreto che andava dal 70, non mi ammetto cosa, adesso c'è un altro decreto del 2003, per forza ci sono stati alcuni cambiamenti. Io auguro che siano cambiamenti fatti in meglio. Già fa, me lo auguro anch'io. E va. Sono andato a vederlo perché c'è Manuela, se non sei andato anche io e avrei avuto appurare se si vedeva qualche cosa dei cambiamenti di legge che sono stati fatti, che ha detto Roberto. Però la verità è questa, che noi conoscevamo questa legge che proibiva di fare i DX, non potevi uscire dalla città, e se ne è risaputo, lo sanno tutti, infatti se l'hanno chiamata city band vuol dire banda cittadina. Banda cittadina, ma io ti assicuro che qua nel sito io ce l'ho ancora aperto, questa è in pratica, poi c'è anche il coso, te lo leggo brevemente. Per il piano di esercizio dispositivo di apparecchiature terminali e comunicazione elettronica di cui all'articolo 105 del comma la lettera B del decreto legislativo del 1 agosto 2003 numero 259, decreto ministeriale DPM 159-157 articolo 319 comma 18 a lettera AH e C di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico banda cittadina, di possedere i presenti requisiti, di non aver portato condanna per delitti non colposi la pena registrativa superiore a 2 anni, ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e prevenzione finché durano gli effetti di prevenzione, sempre che non sia intervenuta la sentenza di riabilitazione. Il sistema radioelettrico è ubicato nei seguenti la cosa della consacrazione, o questa non si legge, è piccolino presente la seguente caratteristiche: a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto presente dichiarazione, rispettare ogni norma del materia di sicurezza e prevenzione nell'ambiente della salute pubblica e urbanistica, di versare un contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero della Comunicazione, ad osservare in ogni caso le disposizioni previste facendo disposizioni previste dal decreto legislativo del 1 agosto 2003 al numero 259 del codice della comunicazione elettronica. Poi parla dell'articolo 1 che insomma della disposizione 4 watt, che l'apparecchio deve essere omologato, deve riportare l'etichetta, deve, insomma, tutte queste cose qua, come deve essere fatta. E poi c'è questa cosa qua che dice in pratica che appunto si possono fare delle, addirittura qua parla AM, FM e anche UO. Non c'è nessuna cosa che vieti antenne, nulla. Gianni già KO. Io canno. Dicevo che mi piace anche ascoltare, perché a volte c'è un sonno e mi piace molto ascoltare. A volte non ne ho voglia di parlare nemmeno. Comunque di questa cosa qua ne prendiamo più chiarezza ancora. Ehi, perché ma ci vuole la documentazione. Fatta, sì. Ne prenderemo nota seriamente, perché voglio capire un po' tutto. Paga. E vabbè, piano piano se si legge, si fa, si impara. Beh, così è. Yeah. Adesso ho posizionato l'antenna in una maniera che adesso mi sentite a me. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, fa. Ti dà se ti sta bloccando, e chiudo anch'io. Insomma, qualche 5 minuti già registrano ancora. Caffa, caffa. Via, via. Dunque, un discorso interessante stasera. Il discorso interessante sì, però siamo tra di noi facendo. Secondo me c'è una persona che si intende la legge, che ce la presenta come deve essere, perché lui dice la sua. Caffa, è così. Ognuno dice la sua, sì. Però, fatto sta che nelle nuove licenze, diciamo così, ci sono scritte queste cose qua, e le cinti internet ci sono scritte queste cose qua. Sì, sì. Ma vabbè, a parte quello, ma il fatto di DX, io mi ricordo che era così. Caffa, prima era così. Adesso non è più così, però. Se lo si sa, non l'abbiamo appurato ancora. Vabbè, vediamo un po', dai. Vabbè, dai, cambiamo un discorso. E beh, oggi a venire a travaglio. Mamma mia, il discorso più brutto non lo potevi fare. Già c'era. Stamattina era tranquillo. Stasera, vabbè, sono fatto un paio di viaggi, ma era, diciamo, non moltissimo, però c'era. Papà, io direi anche da noi c'era qualche pochino di movimento. Da noi i negozi stamattina c'era poca gente, nei negozi. Poi, da consegnare io li ho sempre, perché chiamano le ditte, chiama questo, chiama l'altro, e alla fine poi c'è sempre il genere che consegna. Come ti si scelta, Nia? Cosa? Come ci svegliano? Magari sei un po' fermo, poi tutto il lavoro, tutta un'ora. Di me, per carità. Ma comunque stamattina non era questa grossissima giornata di lavoro, ecco. Peccato, ma meno male, e perché ho fatto il corso anche se gli la roba e tutto quanto. Non ce n'è meglio, ma non venero, ma così goda. E a volte si casse di acqua così alla volta. Se ti fai il conto, sì, sono 2, 4, 6, 3, 18. Poco, grazie. Non c'è 80 kg. Come mi metto le cuffie che mi ho fatto? Cosa? Metto le cuffie. E io? 70 kg, così adesso. Cosa fare? Cassi da 6, sì, per 6, 36. Anche se da 30 kg per un posto su. Gaffa, gaffa. Vabbè. Già sono pesanti anche quelle. Sono lavoro un po'. No, scusa un attimo, ho sbagliato io. Sempre se 36. Sono da 6 bottiglie. Sono 36, 36. Sono 6, 12, 72 kg. Ah, però, fai già pesante. E voi già si lavora quel lavoro lì, a Puglia. E ma pure il mio, soprattutto il figlio di Natale, mia mamma, la salita di quelle bombole, un cagino. Perché con un sacco di lavoro cioè devi essere veloce quando consegni da noi. E anche tu fai lavoro molto pesante. Ecco, poi gli altri adesso sono un po' abbassato, ma altri anni ho lavorato per continuazione, sempre andando e torrente. Lo so, e così sono io. Ma io oltre le consegne porto la roba nei negozi che vi serve, il latte, ui ui ui. Ecco. chiacchiera, non so, tu fai una cosa e l'altra. Comunque, ti sovraccaricano un bel... E mille altre cose. Che va a fare? Perché da quanto mai hai detto tu c'è solo un'altra persona che consegna come te, Lucia. No, ragazzi. Solo tu. Io con 16 di gusto. Tammacco. Ce ne sono le consegne. Oltre che le cose che non vuoi sono le ditte che chiamano, vogliono prendere di acqua, questo, quell'altro. Insomma, ce ne. Scappa, però almeno in due dovete essere, non in una persona sola. Lo so. E cosa vuoi fare? Quello si chiama sfruttamento. E mi sembra come fa la ingresca sul bandanzolo. Scappa, certamente. E c'è tutto che è destra, che si ne ha fatto un bobo a casa. Quanto ho capito? Beffa, bisogna messo poco a casa, hai sentito? Ma tu non sai la risvolta. Ho detto Alessandro l'ha acquistata e prende tutti i dipendenti a lavorare. L'ha acquistato? E io. Davvero? Da domani stesso riprende. È una bella notizia. Io ho guido, Baracci. Questo imprenditore ha detto vedere tanti padri di famiglia a casa, con mutuo a pagare, con tante spese. Io li voglio riprendere tutti quanti perché così do modo a loro di portare avanti la famiglia. No, poi ce ne sono Bovaracci che vanno in famiglia, non so ne come si fa, va. Ma se ha fatto una cosa del genere ha fatto una cosa buona. Vabbè. E poi c'è una cosa, si chiama una commessa, diciamo, al marito che lavora, bene o male, ce la dovrebbero fare tirare avanti. Magari si tratta di un padre di famiglia che magari ha l'unico stipendio, come fa? Come fa? Come ti deve fare? Dobbiamo la disperazione. Che Dio si è ammazzato, mi ha chiamato il travaglio, non lo sai? Che scappa, lo so, troppo, purtroppo ci sono stati dei casi molto molto brutti, c'è gente che il lavoro non l'ha più trovato. E più di voce, o che lavorano saltariamente, non si possono mai mettere una spesa, niente. Che scappa, sono cose brutte, insomma, sono cose bruttissime. Ma comunque, se mi stai dicendo una cosa del genere, sono contentissimo, perché non è giusto che mandino a casa tanti dipendenti così, tanti padri di famiglia, madri di famiglia. 250 so. E abbiamo sentito già dall'amico mio che lavora lì alla Sisa, dice 250 fino alle futura. Dove lavora la Sisa? E dove? Lì a Pasqua? No, lì dove sono io. Ah, non so, mi spiace un po' perché si mettono lontani, come è successo a loro, poteva succedere a noi, no? Caffa, sì. No, lavora lì alla Sisa e me l'ha detto che è successa una cosa del genere, che questo grand'uomo che non so, ha lasciato tanti buffi, perché siccome si passano anche la parola, a Chirusani, da Buglio in mezzo, è successo tutte queste cose. Ma comunque è strano che uno fallisca con le cose alimentari. Sono beni di prima necessità, quindi tutti devono, sono obbligati a comprarli. Caffa, tu dici così, però questo grandissimo affetto che non ti dico, ci ha mangiato le dita, ha lasciato 20 milioni di euro di debiti. Oh, e so che anche prima aveva fatto una cosa del genere, aveva pagato la liquidazione di dipendenti, aveva licenziato e poi non ha pagato la liquidazione. Caffa, sì. Ci giusta un bel. là, ti sento se sei un po' nel momento e non mi senti più. Buonanotte, buonanotte. Ci risentiamo domani, ciao ciao. Buonanotte, ci sentiamo.